L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Di blu. Non è l'aereo che ha preso oggi l'amico David Parenzo per andare a farsi i cazzi suoi a Parigi. No, amici miei, molto non stiamo bene parlando di quell'aereo lì che ha preso molto oggi bene il signor Parenzo da Fiumicino per andarsi a fare gli affari suoi nella capitale francese dove si trova. Peraltro mi sembra che si senta meglio rispetto a quando è in Italia, no? Ti posso dire soltanto questo, perché forse pubblicherò le foto della maison, sì, nella quale sono, ma non vorrei scatenare quella che poi tu sarai in grado di aiutare, cioè quella invidia. No, sociale. Pubblica la casa dove sei a Parigi, la borghesia ricca di sinistra che viaggia per tutta l'Europa. Questa sera che fai? Moi. Le fromage? Questa sera formaggi freschi? Stai zitto. Champagne. Scusami, allora dicevamo la questione. Che vergogna, e poi mi accusa sugli operai, ma sulle sto cose. Scherzando. No, ma che ma stai scherzando? Stasera andrai in ristoranti di lusso da 100-150 euro. Fermi tutti, fermo. Una grande inchiesta sulle penso, questa sì, ma quale, ma quale vergogna? Io fossi in Francia voterei Marine Le Pen tutta la vita. Aspetta un attimo, fermo. Tutta la vita. Fossi in Francia, lo dico, voterei Marine Le Pen. Proprio così, a spada con la X. Col sangue proprio, sai, con la X col sangue. Sono tempi duri. Durissimi, caro Vittorio, durissimi. Gino Strada, vorrei farvi ascoltare il signor Gino Strada. Sugli F-35, sui famosi F-35. So che voi che siete in macchina, magari questa sigla non vi dice nulla, forse sì. F-35 sono caccia militari, aerei militari. Se vogliamo stare nella NATO, poi possiamo pure decidere di non andare, di uscire fuori dalle alleanze, di farci i cazzi nostri, eccetera. Però se vogliamo stare in un'alleanza militare, ci sono delle cose da fare. Magari non è giusto comprare quegli aerei, dobbiamo comprare di meno. C'è un contratto, gente che aspetta di iniziare a lavorare in alcune fabbriche in Italia, sui pezzi, eccetera, eccetera. Dunque, se rinunciamo agli F-35, rinunciamo pure ai posti di lavoro. So che non sei d'accordo, Parenzo, però... Senti Gino Strada avvelenato, senti. Io credo che in una situazione sociale come la nostra, se penso a chi non ha lavoro, a chi non ha cure, a chi non ha casa in Italia, io mi sento di dire che chiunque politico pensi di spendere 1 miliardo, 2 miliardi, 10, 15 per comprare aerei è un cretino. Clinicamente un cretino. Chi compra aerei è un cretino, chi compra aerei militari. Poi proseguiamo, perché Strada c'è un crescendo che porta a uno scontro formidabile con Mario Mauro, che ha perso il suo aplomb di democristiano da quando è tornato in Italia e si è adeguato alla rissa televisiva. Ma perché uno si sente sicuro perché abbiamo gli F-35? Ma che cazzo caccia in Italia sto qua? Non so, gli evasori fiscali col caccia, ma cosa cacciano? È una pazzia, semplicemente una pazzia. Per inciso, trapela che questa pazzia, come tante altre, è fatta perché è chiaro, quelli là hanno investito miliardi o questi aerei, qualche pirla che glieli compra deve esserci. Dolce suonava soltanto per me. Ancora Strada, voglio solamente dirvi una cosa, popolo della radio, popolo della zanzara. Caro Parenzo, in trasferta a Parigi con l'aereo, ovviamente, non sei andato in treno. Vabbè, no? Ma come vuoi che vada? Ma che ne so, come Tony Negri andò in Corsica, che ne so, di notte col canotto. Barca. Col canotto. Vabbè, ma io non sono mica Tony Negri, scusami. Allora, no, voglio Tony dirti Negri una cosa. È un grande intellettuale. No, aspetta, mia. Lascia perdere Tony Negri, ma devi sempre prendere una traversa. Vorrei stasera appena provare a passartelo. No, no, magari. Allora, aspetta un attimo, io dico una cosa. Se persino Gino Strada e Mario Mauro utilizzano la parola cazzo, in una discussione pubblica alla 7, perché non possiamo utilizzarla pure noi questa parola? Amici di Confindustria, amici! Dai, su! Perché forse da noi piovono come quando c'è la grandine. In questo caso le provvidenze di Dio. No, è che da noi, noi piovono come nella foresta pluviale alle volte, capito? C'è già un ospite collegato, un nostro amico. Calma, calma. Amico che, con cui in passato abbiamo avuto degli scalzi, però è normale, fa parte della discussione, no? Allora. Vabbè, lasciamo perdere Gino Strada, che poi ha detto di tutti i colori. Andiamo sullo scazzo con Mario Mauro, sugli F-35, formidabile, sentite. Per me l'Afghanistan è un intervento legittimato anche attraverso le Nazioni Unite. Non dica sciocchezze, per favore. Mi faccia parlare. Ma il 7 novembre avete votato, 7 novembre 2001. Che risoluzione c'è stata dell'ONU prima del 7 novembre 2001? Sa qual è la risposta? Nessuna. Nessuna. Avete fatto semplicemente un atto di servilismo rispetto agli Stati Uniti d'America. Ma un solo atto quello. Di servilismo rispetto a che cosa? All'11 settembre! Ma lo faccio a lei l'atto di servilismo rispetto alle responsabilità! Ma di che cosa sta parlando? Ma lei si rende conto che cosa sta dicendo? Sì. Il 7 novembre è il figlio dell'11 settembre, non di qualche stranezza. Ah. Di stare qua. Ma che cosa sta dicendo? Ma lei parla dell'Afghanistan, ma di quale? Dove quello dove ascolti. Nello stadio si ammazzano le persone. Ascolti, stia zitto. No, stia zitto. L'Afghanistan al massimo l'ha visto, la base militare di Bagram, ma la base cosa militare sta di Herat e l'ambasciata. Ma che cosa ma dove dicendo? Cazzo è stato in Afghanistan? Ma dove ma cazzo sta? Stai tu? Mi dica che sei dove un sta? Fantasma! Ah, non sì. Sai di che cosa parli? Vabbè, ma stiamo parlando io di cose. Io ho vissuto sette anni in Afghanistan. Lei quando c'è stato? No. Quanto c'è stato? Lo dica! Quando hai cominciato a dire che eri 800.000 studenti, tutti maschi! Perché i talebani le donne non le facevano studiare? Ma se ci sono 9 milioni di studenti oggi, è 40%. Ma vada a leggersi qualche libro. E questo va. È altro. La musica dolce suonava soltanto. Conclusione. Per me. Beh. Oh. Siete sfogati. È come discutere con tranquilli? Con la spira pure. Marco. Ma... Adesso purtroppo devo dare la pubblicità. E dopo la pubblicità. È impensabile per aspirare le sciocchezze. È come parlare con l'aspirapolvere, dice Gino Strada a Mario Mauro. Devo dire che in questo caso Santoro è stato il numero uno, che rispetto ad altri conduttori che fanno finta di, no? Fanno finta di fare i moderatori. No, no, per carità, non parlate così. Lui proprio se la ride e dice: purtroppo devo dare la pubblicità, altrimenti mi avrei fatto scalzare per altre 3 ore davanti a tutti. Siamo qui, 800 24 00 24. Il conduttore di Roxy Bar, Red Ronnie, buonasera. Ciao. Come stai? Come stai, caro Red? Molto bene. Allora, molto immagino bene. Tu, da quello che ho letto, che in questa diatriba sugli F-35 hai una posizione scolpita nella pietra, o no? Beh, trovo assurdo, cioè io credo nella democrazia, però ultimamente dovrebbe essere eliminata questa parola dalla Treccani, dalla Zanichelli, da tutti. E che cosa bisogna metterci al posto della parola democrazia? Fascismo. Lobby. Fascismo addirittura. Ma perché? Cioè fascismo da parte di chi, scusami? Ma scusa, il popolo italiano credo che se non al 100%, al 99% non voglia gli F-35 e trovi assurdo spendere miliardi quando abbiamo ben altri problemi negli F-35. Però scusami Red, se uno dovesse governare così su ogni decisione un sondaggio degli italiani saremmo freschi, o no? Ma sai, secondo me, visto che noi abbiamo eletto dei nostri rappresentanti, questi nostri rappresentanti dovrebbero saper interpretare il desiderio del popolo. Dunque, secondo te c'è fascismo sugli F-35 oppure, non so, anche su altro, perché gli italiani vogliono una cosa e i governanti, in particolare il PD, oggi il ministro Pinotti ha detto ai militari state tranquilli, state sereni, che non è proprio una frase benaugurante. Sì, no, beh, state sereni, ultimamente da parte di qualcuno del PD. Esatto. È un hashtag. Porta male, diciamo. Porta molto male. Porta male. Però, ad esempio, io quando a Cuba ho intervistato la figlia di Che Guevara, lei mi diceva, tutta questa democrazia di cui si parla, dov'è? Quando la gente non vuole andare in guerra e noi siamo in guerra. Però, insomma, la figlia di Che Guevara non è che viene da una cultura politica e democratica, diciamo. No, poi sta, per carità, poi in dissenso dal padre. Ma insomma, Renzi, su questi F-35 ti sta deludendo? No, non è che mi sta deludendo, semplicemente credo che Renzi, tra il dire e il fare ci sono di mezzo le lobby. Dunque sugli F-35 secondo te decidono le lobby, cioè Obama è venuto qui e ha imposto la sua legge, diciamola. Beh, è venuto venuto a ricordare che, insomma, che dobbiamo comprare gli F-35, come nel campo della medicina, guarda quello che succede, con anche i servizi delle Iene, che dimostrano che con l'alimentazione si sta meglio. L'ultimo servizio è stato che i malati servono, perché i malati rendono l'industria farmacologica. Quindi, visto che le due industrie più importanti, soprattutto dell'America, sono quella delle armi e quella della farmacologia, noi dobbiamo essere malati, subire chemioterapia e andare a fare le guerre. Perché tu pensi che si possa guarire, siccome hai parlato di chemioterapia, dal cancro con altri metodi? Sì. Cioè, secondo te si può guarire con metodi naturali, che ne so, attraverso cosa? Attraverso una alimentazione macrobiotica punto zero, cioè nel senso quella crudista. Ho visto persone che hanno messo via metastasi, capito? Quindi per dire, perché adesso toccati dappertutto, ferro e dappertutto, per carità, con grande rispetto di chi è malato. Se tu fossi malato, non ti cureresti con la chemioterapia? Assolutamente no. E con che cosa? Con un'alimentazione vegana? Tu sei vegano, no? Sì. Con l'alimentazione vegana. Parenzo? A parte che l'alimentazione vegana fa prevenzione, quindi automaticamente ti alza le difese immunitarie. Ma al di là di questo siamo andati in un altro campo. No, però è interessante questo campo, siccome riguarda un sacco di gente, eccetera. Tu sei una persona che fa opinione, cioè una persona conosciuta, eccetera. Se dici la chemioterapia fa male, è meglio curarsi con l'alimentazione vegana, uno deve dire, Parenzo, no? Che dici tu? No, io dico che è da criminali, però voglio dire... Cioè stai dicendo Red Ronnie quando dice queste cose è un criminale? Dà un messaggio criminale, perché fino a quando non c'è, da un punto di vista scientifico, io mi fido dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Ministero della Sanità, fino a quando non esistono protocolli verificati alternativi, dire mangiate le carote o mangiate più frutta e verdura per curarvi dal cancro, detto con il rispetto per le autorità civili, politiche e militari, è una stronzata ed è anche criminale, perché Red Ronnie, risposta di Red Ronnie. Beh, tanto per cominciare, non lo dico solo io, ma lo dice Umberto Veronesi, che mi sembra che ci intenda di tumori più di Parenzo. Ma a parte questo... Beh, però non è che Umberto Veronesi dice non curatevi con la chemioterapia, scusami. Beh, Umberto Veronesi dice chiaramente anche queste cose. Ma a parte questo, perché io vengo tacciato di essere un criminale quando, dicendo queste cose, A, non guadagno soldi, B, mi attiro l'ira di qualcuno, invece le industrie farmaceutiche guadagnano sulla malattia delle persone? Un attimo solo, traffico, poi torniamo con te. 800-24-0024. Mi piace Red Ronnie, ogni volta che lo invito suscita sempre qualche dibattito crudo, forte. C'è il traffico. Allora io divento pazzo per una cosa, caro Parenzo, adesso riprendiamo subito con Red Ronnie. Divento pazzo per una cosa, già ci sono un sacco di reazioni su Twitter, quello che ha detto Red Ronnie sul cancro, su come curarsi, mangiare vegano. Che succede lì a Parigi? Che t'hanno sbranato? Che t'hanno fatto? No, c'è mio figlio che sta piangendo. Ho sentito un rumore pazzesco, vallo a soccorrere, povero bambino. C'è mio figlio che sta... No, sul gas così, no? Beh, vabbè, forse... In quale casa di lusso sei a Parigi? Ciao! Ma io dimmi se posso lavorare così. Le Pen, via Le Pen. Se posso lavorare in questo... Ma che via Le Pen? Ma quando mai? Allora, fermi tutti, adesso lascia perdere il figlio. Scusa, vuoi poggiare tuo figlio? Vuoi portare tuo figlio fuori dalla finestra, per favore? Posalo fuori dalla finestra per un attimo lì. L'ho messo un attimo sul gas, aspetta, adesso torno. Sono tempi duri, molto duri. Allora io dico una cosa, il Partito Democratico è guidato da Renzi, no? Parenzo, seguimi per un attimo, guidato da Renzi, il quale oggi dice che vuole due vice segretari, là, come diavolo si chiamano, uno è Guerini, quello che c'è, un altro è la Serracchiani. Ma io dico, perché uno fa il governatore del Friuli Venezia, io lo dico con grande rispetto alla Serracchiani, perché devi andarti, fai il governatore di una regione, basta questo, un impegno gravoso, un impegno forte, un impegno importante, perché devi diventare vice, se io ci sono, dice la Serracchiani, ma che ce sei? Devi stare a Trieste, non a Roma. Stai a Trieste, resta lì a governare, non a Roma. Non c'è dubbio. Non cambia niente, nemmeno con Renzi, è una cosa pazzesca. Allora, Red Ronnie, però la critica di Parenzo è giusta. Uno non è che si può curare dal cancro con le carotine, adesso detta in maniera brutale, banale, o no? No, io ho visto casi anche con nomi ti posso fare. E quindi ho visto casi proprio di persone, ma anche quello che ha intervistato le Iene, era uno che con la chemioterapia gli sono rimaste le metastasi e ha cambiato totalmente alimentazione e ha guarito. Cioè tu la cancelleresti la chemioterapia? La cancelleresti? Ma non è questo, il discorso è un altro. Dunque, tanto per cominciare, esiste la prevenzione, no? Vabbè, quello è un altro discorso. Ma quello è un altro discorso, però. Va bene. Allora, tu devi sapere, medicina, c'è chi parla a questo livello. La medicina ufficiale che già non fa prevenzione, vuol dire che già è in malafede. Vabbè, ma questo è un altro discorso sulla prevenzione. Tu dici che dietro la questione della chemioterapia c'è un grande business dei multinazionali. C'è un business incredibile. Dietro i vaccini ci sono dei business incredibili. Tu pensa che c'è stato tre anni fa, non so quanto è stato, c'era stato l'aviaria, no? Il business dei vaccini per l'aviaria, ok? Sì, no, allora, ma quello è vero, sulla aviaria è vero, sì, ma quello è un altro discorso. Ma come è vero? È vero, ma guarda che ci parla di miliardi. Ma tu sei tra quelli che pensano che i vaccini sono criminali e portano alle malattie? Ma certo. Beh, ma certo, non è che sia sicuro. Parenzo, tu lavori pure nella tua famiglia, c'ha qualche le mani in pasta lì nei vaccini, no? Ma le mani in pasta, la mia ex moglie, cosa c'entra? Quella mia ex moglie me ne frega niente di quello. Beh, ma non è questo il punto. Risponde a Red Rolling. Io il vaccino lo faccio perché, ma dopodiché lascio alla libera scelta delle persone, non faccio propaganda per nessuna azienda farmaceutica. Dico, primo, l'età media delle persone, grazie alla scienza e grazie anche ai farmaci, si è allungata. Primo, dato vabbè, dai, non lo fare lunga, però, poi, amico mio, non è che stiamo al simposio qua. Dai. Se lui non vuole i vaccini, e vuole bersi il succo di carota e coltivare l'insalata a casa sua, se gli viene il cancro, non glielo auguro assolutamente, ma porte aperte, ma beva il succo di carota, di ananas e di mango e anche di papaya, se vuole. Però, francamente, fino a quando non esiste una cura certa, vabbè, scientifica, diventa criminale come il metodo vaccinale. Stai dicendo, ti ha dato del criminale, Red, questa è la sostanza. Criminale propagandare, certo, anche altre cose. Ripeto, ma io sono un pazzo visionario, se dico queste cose mi attiro anche tante critiche, e visto che non guadagno soldi, anzi ci rimetto, perché io ho rinunciato a prodotti dannosi alla salute come sponsor dei miei programmi. Su Roxibar TV non c'è la carne, non ci sono prodotti, non c'è l'alcol. Ma come si fa la frittata di carciofi vegana? La frittata di carciofi vegana, ieri ho twittato una frittata per questo, di carciofi, ho visto ma non era con la farina di ceci. Ah, con la farina di ceci. Certo, ma guarda che se c'è una sera, io non so cosa potrebbe uscirne, ma io te uscissimo a cena e ti porto a cena vegana, ma lo so, ma io lo so, ma guarda che io sono assolutamente a favore di questa cosa qui, sono uno che mangia macrobiotico, mangia queste cose qui, dopodiché non sono però assolutista, non dico che la chemioterapia fa male. Ma sai, io mi occupo dal 1990 di alimentazione. Ma gli animali, gli animali, tu i circhi li aboliresti? Allora, tanto per cominciare, ho discusso anche con uno su Twitter, perché lui aveva pubblicizzato una foto in cui era contro i circhi con gli animali. Allora io gli ho chiesto, ma tu sei vegetariano? E lui ha detto no. E gli ho detto, ma allora come ti permetti di arrabbiarti per i circhi quando tu questo mangi la sofferenza questo di animali giusto che vengono bistrattati negli allevamenti, uccisi crudelmente, eccetera? Cioè tu la sperimentazione, questa hai ragione, la sperimentazione sugli animali la cancelleresti, sono dei criminali quelli che la fanno. Assolutamente sì, perché è stato dimostrato che non serve. E quella ragazza che dice che è guarita grazie alla sperimentazione sugli animali? Quella ragazza è stata fortemente strumentalizzata, non è assolutamente vero. Beh, no. Però non puoi attaccare quella ragazza. Sono criminali quelli che in nome della difesa degli animali attaccano questa ragazza. Questa ragazza poverina ha dei gravi problemi e va aiutata, va assistita, non va assolutamente attaccata. E quando vedi Dudu in televisione così portato davanti un animale, un cane portato davanti alle telecamere, mostrato, no? Come simbolo dell'unione tra Francesca Pascale e Berlusconi, che effetto ti fa? Nessuno. Mi fa un effetto di marketing, uso dell'animale come marketing, visto che funziona. Glielo toglieresti? La Lega Protezione Animale. Ma no, ma lasciaglielo. Ma non mi interessa di Dudu, hai capito? Mi piace perché, come io ti piaccio perché creo sempre casino, tu mi piaci perché tu riesci a portare tutto sempre da un'altra parte. Non mi sarei mai aspettato di arrivare dal vegetarianismo a Dudu. A Dudu, ma qualche collegamento c'è, un filo rosso c'è sempre. Per esempio, i cacciatori, tu che cosa gli faresti ai cacciatori? E i calciatori, sai, la cosa migliore che ti dico è questa. Gli taglieresti la mano, che faresti? No, c'è un film, sì. in cui che inizia con uno che sta per uccidere una capretta, un macellaio. Sì. E la capretta lo ringrazia e dice, ma tu parli? Sì. Dice, ma perché mi ringrazi? Ti sto per uccidere. Perché poni fine alla mia ultima delle 100 vite da pecora, da capra. E dice, e prima che cos'eri? Ero un macellaio come te. Quindi non ti credere, tutto ciò che noi facciamo ci torna indietro. Cioè, chi ammazza uno col fucile, eccetera, prima o poi crepa, questo vuoi dire? Esatto, dovrà provare la sofferenza che ha fatto agli altri. E tu sarai contento a quel punto, dimmi la verità. Sarai contento della sofferenza di un cacciatore? No, sì. No, a me la sofferenza degli altri mi fa sempre molto, molto, molto soffrire. Red Ronnie è stato con noi, grazie, a presto. Davide, mi raccomando con tuo figlio, toglilo dal gas. Giornale Radio. La Zanzara. Che va in onda la Zanzara, tra una vista e l'altra va in onda la Zanzara, mamma mia quanto mi massacrano. Come dare torto a questo signore? Ricomincia la Zanzara, 800240024, popolo della radio, popolo della Zanzara. Davide Parenzo questa sera è in collegamento da Parigi, dove mangerà i suoi formaggi della Gauche Caviar. Dove andrai questa sera a cena, Parenzo, a Parigi? Quanto spenderai? 100, 120, 130, 140? In quale casa sei alloggiato? In quale quartiere chic di Parigi sei alloggiato? E soprattutto, perché... per quale diavolo di motivo sei andato a Parigi? Scusami. Dunque, sono venuto, adesso non per farti, capisco che tu vuoi farti i fatti miei, io sono venuto a Parigi per due ragioni. La prima è per sentire la città... Sì, che non è cambiato niente, non è che la gente è terrorizzata dal fatto che Le Pen possa vincere le elezioni. Io ho sentito molte persone intervistate stamattina e anche tra poco scenderò in strada. Ma quando scenderai? Sì. Per sentire... Questo è Vizzolini che faceva i servizi sui cani al TG1. Vabbè, allora poi? C'è un clima di apprensione rispetto ma a non è vero, ma non è vero, clima terribile. Guarda, ci sono anche i bambini che piangono addirittura per l'isola della Le Pen. Ci sono bambini che piangono e che si lamentano, che dicono d'accordo. Sono tempi duri, signora Marchi. Questa sera faremo una super vendita da Parigi, la città che ha dato i Natali a Goethe. Ma com'è Goethe? Non è Goethe, quella sbagliava tutto sempre in continuazione. D'accordo, abbiamo formaggi francesi anche dell'ottimo sale, che venderemo un paio di euro curativo, d'accordo? Sì, ma non ti allontanare dal microfono, sennò si sente più piano, dai, su. Gino Strada, Renzi a Washington, senti questa roba? Sai, è come quando l'imperatore va a visitare le province lontane dell'impero. Ma noi ce l'immaginiamo Renzi a Washington e Washington bloccata? Ma non se lo filerebbe neanche il tassista. Un po' questo è vero, devo dire, c'è sempre un atteggiamento quando arriva un capo di Stato americano qui o un capo di Stato di un altro paese, un atteggiamento di estremo provincialismo, il Colosseo completamente liberato, per carità era una visione meravigliosa, il Colosseo completamente liberato da quelle orrende bancarelle che stanno lì davanti, da quei signori che certo riescono a campare oppure a rifornire qualche clan, a rifornire qualche gang, quei signori vestiti da... No? Ma non dire così, perché da antichi romani, dai. Vabbè, ma che male fanno questi vestiti da... Vabbè, però sono tutti abusivi, dai. Sono tutti abusivi, via. Gli abusivi vanno. Sono abusivi, ma vanno tolti tutti. Va tolto tutto l'abusivismo, dai. Ma quello è un abusivismo anche simpatico. No. Almeno è vestito da gladiatore, non ti ruba il portafoglio, scusami, che male c'è. Titoli, TG3, titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il governo approverà lunedì il disegno di legge sulla riforma del Senato. Sul lavoro dice Renzi niente ultimatum. La minoranza del partito è una proposta di destra. Sugli F-35 non faremo passi indietro, dice la Pinotti. Dopo la visita di Obama, Grillo attacca il presidente USA, vuole vendere il gas e teme Italia le spese militari. Visco, sindacati e imprese troppo rigidi, frenano lo sviluppo. Dura reazione di Camusso e Bonanni. Padoan, l'Europa punti sulla crescita. Dal 1 aprile tetto agli stipendi dei manager per le società del tesoro non quotate in borsa, fuori dal provvedimento Enel, Ferrovie e Poste, limite di 311.000 euro. Il governatore della Calabria Scopelliti si dimette dopo la condanna a 6 anni per bilanci falsi da sindaco di Reggio Calabria, una sentenza clamorosa ma va rispettata. La Corte Suprema indiana ha messo in ricorso l'Italia contro la polizia antiterrorismo, sospeso il processo penale, il governo chiede l'immediato ritorno. Parla al TG3 il 14enne picchiato da due coetanei a Casal di Principe per il colore della sua pelle, rischia di perdere un occhio e il sogno di diventare calciatore. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte. Il cioccolato con un divo, un santo, un divo, un divo. Come Cristo. Ma insomma, sì, è un uomo come eccezionale. Cioè, purtroppo ce n'è solo uno. Purtroppo, cioè, no, vuol dire Cristo. Cioè, nel senso, può essere paragonato anche a Cristo. Come importante veramente può essere paragonato, perché qualsiasi cosa che tocca lui e fa i miracoli. Cerchio magico esiste, secondo lei? Si sta parlando molto del cerchio magico. No, assolutamente non esiste. Ma come no? Sono tre persone. I fedelissimi No, assolutamente, assolutamente. Lì c'è solo Berlusconi, che lo dobbiamo ringraziare, sì, perché lavora fino alla notte alle 2:30, alle 3 la mattina. Come alle 2:30 la mattina? Sì, sì. Anche lui lavora, beh, io lo so, io passo a Palazzo Grazioli, lo vede che sta illuminato. E lavora fino a tarda notte. Ma fa male lavorare. E poi la mattina si alza presto, già alle 7:30 massimo, già sta lavorando. Però la cosa più bella, per carità, non è mica obbligatorio conoscere il direttore del Corriere della Sera, il nome, no, Parenzo? Perché no, non è obbligatorio. Insomma, però certo, uno fa il politico, fa il senatore, per carità. Sentiamo questa cosa. Non chiedo in strada, tra la gente. Ora. Sì, ma tra la gente, sì, vabbè. Guarda, ecco questo, ecco qua. Aspetta, fammi sentire Razzi, aspetta. Il nome del direttore del Sole 24 Ore se lo ricorda? Sai chi è? Il nome almeno del direttore. Guarda, io conosco solo Sallusti, il direttore del giornale. Solo Sallusti. Basta. Il Corriere della Sera. Il Corriere da chi è diretto? Il Corriere. Come si chiama? Ferru? No, non è lui. Lo so, però adesso non mi ricordo. Cercarne un altro. Senti questa roba. Non conosco Parenzo. Aspetta, che c'è un francese qua. Sì, chiedi. Bonsoir. It's Radio 24 from Italy. Bonsoir. Now it's terrible with Le Pen in France. It's a terrible situation. Yes or no? Slowly. Yes. Slowly, ma che vuol dire? Dice che è una situazione agghiacciante. Ma parla in francese, non in inglese. I francesi non lo sanno l'inglese, sono peggio di noi. Dai, ma su. Qui il computer lo chiamano. Ma tu devi fare Berlusconi, l'ordinateur, certo, devi fare Berlusconi, devi fare solo Berlusconi, vedi la reazione. Berlusconi. Ecco questo. Chi c'è? Chi è? Questo coi figli sicuramente. Dai. Sarà, Berlusconi. Sarà, eccolo qua. Bonsoir. Berlusconi? Si dice Berlusconi. C'è un silenzio praticamente tombale. Sì, no, lo sai, anch'io lo percepisco. Vabbè, senti, però preparati prima, cerca di fare delle domande più intelligenti. Scusami. Radio 24, Berlusconi, madame. Désolé, monsieur. Désolé. Le Pen, terrible situation. Vabbè, dai, non ti si fila i francesi, basta. Ma hai rotto le palle con queste cose. Preparati meglio, fai le cose in maniera più degna. Citofona, fai casino, fatti arrestare, che ne so. Razzi, non conosco Barisoni, chi cazzo se ne frega, sentite. C'è la lei conosce il signor Razzi, Barisoni? Conosce il signor Barisoni? No. Chi cazzo è? Dico? Come? Ma è vice direttore della radio? Ma che ne so? Perché? Ma che mi interessa? Ma io non vado mica a guardare che è vice direttore. No, giusto. Poi mi faccio di cazzo io. Vai avanti tu. Dai, forza, Antonio da Lecce, non mi rompere le scatole. Resta Parenzo, stai sul pezzo un attimo. Antonio da Lecce, invece di andare a fare domande assurde per strada a Parigi alla gente, preparati prima, meglio. Dai, Antonio. Ciao Cruciani, dimmi, ciao Parenzo. Dimmi. Cazzo, alla fine l'avete mandato in Francia, va bene. Ascolta. No, è andato da solo, io non ho mandato nessuno in Francia, sia chiaro. È andato da solo in Francia a fare, come si dice, amico mio, vai a Parigi a farti i cazzi tuoi. Quello è andato a Parigi a farsi i cazzi suoi. Allora... Giuseppe, fate una trasmissione fantastica. Questa sera però avete toccato un argomento che purtroppo mi vede protagonista ogni giorno. Io faccio il chirurgo, mi occupo di chirurgia oncologica. Ronny dovrebbe andare a suonare il piffero, perché certi argomenti sono troppo seri per poterli affrontare così in una trasmissione in maniera così leggera. Via, dai. Quando no, veramente muore... non è che era leggero. Lui ha detto la sua. Sì, se ti acchiappa il cancro, detto con grande rispetto, come ti cureresti? Lui dice con l'alimentazione vegana e non però, con la chemioterapia. Però la vostra trasmissione è ascoltatissima, no? Quindi poi è giusto magari fare un contraddittorio. Ma quale contraddittorio? Ma che me ne frega del contraddittorio? Odio il contraddittorio, odio. Sì, cazzo, lo fai tutte le sere. Vabbè, dai. Ma che volevi? Odio il contraddittorio, nel senso, odio mettere per forza qualcuno che la pensi in maniera diversa. Cioè, Antonio, è bello, dire? No? Perché tu la presenti sempre in maniera diversa. Ma, ogni cosa, ma no? Parenzo, infatti, è contrario. Antonio, a parte questa questione qui di Red Ronnie, che volevi dire? Volevo dirti che, appunto, intanto sulle penne sono d'accordissimo con te. Vabbè, Parenzo, poi? Va bene. E che volevo intervenire nella trasmissione anche di ieri, perché il povero Parenzo non può pretendere che, come giustamente dicevi tu, una persona come Carlo Giuliani venga ad essere, diciamo, osannata o quantomeno una persona alla quale si possono dedicare strade. Parenzo? Cioè, Parenzo. Chi è che l'ha osannata? Ma chi è che l'ha osannata? Dai, Parenzo, su, dai. Io ho detto semplicemente che ci vuole rispetto per i morti. C'è gente che vi ascolta, Parenzo, c'è gente che vi ascolta. Vabbè, quello che c'entra, scusa. Come ha detto... certo, ma perché... Va bene, Antonio, ho capito. Giorgio da Bologna, vai. Giorgio? Dai, forza. Niente, volevo rispondere a Red, va bene, che dice che mangiando dei ceci, che mi sono beccato un cancro, e mi hanno operato, ho fatto la radio, ho fatto l'altra roba, come si dice, e lì, insomma, io ho fatto per un anno, ci ho tirato dietro, adesso sto benissimo, non ho avuto controindicazioni. Cioè tu non ti vuoi curare con l'alimentazione vegana al posto della chemioterapia, come dice Red Ronnie? Io andrei giù di testa, a parte mangiare quelle robe che dice il Red, lì ceci, quelle cioè, non c'è niente di strano. Un attimo solo, fermo lì, resta lì. C'è la teoria di Razzi. Barisoni, conosce il signor Barisoni? No. Chi cazzo è? Dice? Hai fatto 100! Festeggia con noi i 100 Megastore Media World. Acquista uno smartphone LG Optimus L92 e ricevi un buono acquisto da 100 euro. 100 di questi Media World. Operazione a premi valida dal 27 marzo al 6 aprile. Regolamento in punto vendita. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Se stai cercando agenti, è garantito che agenti.it è il meglio sito. C'è stanno agenti e venditori di tutto il mondo e di tutti i settori. 12.000 le aziende clienti, 200.000 gli agenti presenti. Agenti.it. Scusa se è poco! Ormai mi fanno fare tutto col telefonino, anche la pubblicità di Wind. E sono in uno degli 8.000 negozi Wind. Eccolo qua, salve, buongiorno. Ragazzi, la parola d'ordine è la DSL. Com'è la DSL? Perfetto. Ho preso il modem. E ora? Pubblicità! Scegli Infostrada a 19,95 euro al mese a DSL vera e chiamate a zero per tutti i clienti all inclusive Wind ricaricabile. Hai capito che bello? Nei negozi Wind. Scade il 13 aprile, scatto la risposta 18,15 centesimi. Info e costi infostrada.it. Ciao, siamo sempre noi. Guarda che gli altri, crisi o non crisi, si danno da fare. Vedessi come corrono. Noi invece, qui, a far nulla. Insomma, vedi un po' tu. Sono i tuoi soldi a chiedertelo. Prova moneyfarm.com. È semplice. Vai sul sito, indichi l'importo, la durata e gli obiettivi del tuo investimento e ricevi subito il tuo piano finanziario personalizzato. Money Farm è il tuo consulente indipendente, perché i tuoi interessi sono anche i nostri. Money Farm. Veramente utile. Approfitta delle condizioni speciali fino al 31 marzo. È la fine per i vecchi PC. Entro il 30 aprile, se acquisti un nuovo PC a scelta fra desktop, notebook, workstation e monitor, HP ti supervaluta l'usato di qualsiasi marca, modello e tecnologia e lo ritira gratis in tutta Italia. Innova, investi e risparmia con HP Trade-in e Microsoft. L'8 aprile 2014 Microsoft terminerà il supporto per Windows XP e il tuo vecchio PC non sarà più sicuro. Non c'è mai stato un momento migliore per aggiornare la tua azienda. Rinnova ora, passa a Windows 8. Vai su hp.com/it/trade-in-PC. Borse in diretta. Wall Street in positivo, il Dow Jones guadagna lo 0,18%, il Nasdaq lo 0,11% e lo Standard & Poor's 500 sale dello 0,38%. Anche l'Europa ha visto una giornata decisamente in positivo, con Milano borsa migliore del vecchio continente, FTSE MIB più 1,53%, seguita da Francoforte più 1,44%, Madrid più 1,27%, Parigi più 0,74% e Londra più 0,41%. Lo spread tra BTP e Bund tedesco chiude a 175 punti base con il rendimento del decennale del tesoro al 3,3%. Euro su dollaro in questo momento a 1,3753. È tutto, la borsa in diretta torna tra un'ora. Un export specialist Comarc in azienda. Guten Tag, Oliver. Ich bin Anna von Archimede. Ich habe die technische Daten des Projekte bekommen. Wir werden das Material nächste Woche verarbeiten. Perfekt. Die technischen Daten, die ich dir gesendet habe, betreffen eine Änderung der Abmessung der speziellen Teile, wie bei eurer letzten Bemusterung, die wir ja schon bestätigt haben. È stato finalizzato un importante ordine in Svizzera per Archimede di Veggiano, Padova, produttore di display in plexiglass su richiesta. Diventa anche tu un'azienda di successo con Comarc. www.aziendedisuccesso.it. Passiamo al meteo. Sbalzi di temperatura con possibili parabrezza rotti. Problemi ai vetri auto? C'è Dr. Glass, lo specialista in Italia per qualità e sicurezza. Convenzionato con le principali compagnie assicurative, lo trovi sempre vicino a te o all'800 10 10 10. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Sono arrivati i punti payback. Da oggi li raccogli da Carrefour, con Alitalia, con Tre, con Mediaset Premium e alla Esso. Tanti punti, tutti con un'unica carta fedeltà, la nuova carta Payback. Richiedila gratuitamente su payback.it o presso i partner. Informazioni, regolamento e lista punti vendita aderenti al programma Payback su payback.it. Se in testa non hai il posto fisso, ma un'idea fissa, realizzarti col tuo lavoro, conta su CNA. Se ogni giorno devi combattere con banche e burocrazia e ti senti in trincea, conta su CNA. Se devi affrontare i mercati esteri, ma ti sono estranei, conta su CNA. Se vuoi svilupparti per meglio competere, conta su CNA. CNA, oltre 9.000 esperti per difendere i tuoi interessi e dare valore alla tua impresa. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese. CNA.it. La Zanzara. Sei ancora qua, Simo? Le zanzare, yeah, fanno male, ma lo fanno, yeah, per amore. Ragazzi, ancora c'è tempo per fare le offerte. Devo dire la verità, prezzo, questa cosa mi ha sorpreso. Sai quanto ma ha offerto? Quanto siamo ora? No, ma siamo già oltre un migliaio di euro, credo, già raccolto. Beh, questo veramente no. È un risultato straordinario. No, ma devo dirti la verità, c'è gente che ha offerto fino a 200 euro a maglietta. 200 euro a maglietta. Perché la gente alla fine ha cuore, cioè ha il gusto dell'orrido, perché comprarsi quella maglietta. No, la maglietta è straordinaria. Dire. La maglietta è sì, straordinaria. No, è straordinaria perché ti porta dell'abisso del trash e va benissimo. Ma quale trash? Però, ma non c'è che cross è trash. Dai, cross è proprio l'opposto del trash. Dai. Anzi, cross è. No, scherzo, ovviamente mettersela è meraviglioso, ce n'ho una anch'io, non l'ho ancora inaugurerò nei prossimi giorni, probabilmente. Io la uso, credo, quando vado ai servizi. No, dai, vergogna, dai, vergogna. Ai servizi. Vergogna per questa cosa. Ah, devo segnalarti una cosa. Oggi sono stato. Quando mi metto in pigiama. Oggi sono stato a firmare uno dei referendum della Lega. Io me ne fotto del fatto che sono andato a firmare per il referendum di un partito. Lo poteva proporre anche al limite Forza Nuova, non so, no, forse Forza Nuova non sarebbe andato, però. Comunque, non lo so, quello non lo so. Però, insomma, qualsiasi partito avesse proposto un referendum per l'abolizione della legge Merlin, cioè per la legalizzazione della prostituzione, l'introduzione dei bordelli, eccetera, eccetera, io avrei firmato. Oggi sono andato, c'era il governatore Maroni, c'era Salvini, c'era Efebal Madrina. Efebal Madrina. Te lo dico d'amico. fatti i cazzi tuoi. Vabbè, sì, abbiamo capito, però senato, su. Allora, mi danno il totale dei primi due giorni, totale dei primi due giorni, 1100 euro, due giorni. Beh, ragazzi, forza, la zanzara è tra24.it. Ci sono ancora diverse magliette di Razzi, si può offrire quello che volete, ovviamente noi dobbiamo premiare quelli che offrono di più, dunque le più basse per adesso, voi no, non ve lo dico, voi offrite, le più basse sono sopra, sicuramente sopra i 30 euro, questo lo posso dire. Allora, eravamo con Giorgio da Bologna, il quale dice: io ho avuto un cancro, certo non mi curo con i ceci, per dire, non mi curo con l'alimentazione vegana di cui parlava il signor Red Ronnie, no Giorgio? Sì, sì, sì. Vabbè, infatti, poi che voleva aggiungere? Niente, voleva aggiungere che non credo proprio, cioè per me, non credo, io ne ho visti che, ma cioè, sarà per il servizio che ho avuto, sono stato da Dio, perché a Bologna insomma c'è un servizio che è quello che siamo in eccellenza, sì, insomma, sì, seguito. Perciò, ho capito, Enrico da Udine. Ha fatto Enrico da Udine, non c'ha più un cazzo da dire, Giorgio. Enrico da Udine. Sono? Sì, vai. Buonasera. Vai. Pronto? Vai, vai, su. Buonasera a tutti, sono Enrico. Io volevo candidarmi a fare. Sono un dirigente d'azienda, innanzitutto. Sì. Circa un 25 anni di esperienza come dirigente d'azienda, attualmente in servizio. Ho sentito gli annunci, mi pare, del TG3 poco fa nella vostra trasmissione, e ho sentito che tutti i dirigenti pubblici saranno limitati come ammontare dello stipendio annuo, meno che Enel, Ferrovie e Poste, se ho capito bene. Io, siccome amo i treni, mi piace la meccanica. No, innanzitutto le ferrovie non hanno bisogno di rinnovare i vertici adesso, non se ne parla adesso, altre aziende pubbliche. Comunque, vabbè, poi... No, d'accordo, io comunque come dirigente mi candido a 170.000 euro all'anno. Vabbè, ma si candidi col Ministero dell'Economia, Parenzo, diglielo tu, ma che c'entriamo noi? Scusa. Ma io, c'è una procedura. Ma no, siccome c'è gente che come dirigente d'azienda pubblica guadagna troppo, dico che al prezzo... Il carissimo amico Moretti, che è bravissimo, ha fatto delle grandi cose, e prendete 5 dirigenti di azienda privata, ovviamente. Cioè, lei si sente in grado di guidare le ferrovie dello Stato al posto di Moretti? Non solo io, ve ne porto altri 4. Vabbè, maestro, non esageriamo, dai, tutti questi scienziati, cominciano ad arrivare gli scienziati adesso, dai, gli scienziati. Non occorre essere scienziati, dai, che ci sono piccole e medie aziende italiane, condotte da dirigenti di aziende private, che guadagnano un quinto di quello che guadagna quel signore lì, e sicuramente sarebbero in grado di portare avanti le Poste col sorriso sulla bocca. No, le Poste o le ferrovie, non ho capito, Poste o ferrovie? Ma qualsiasi azienda, vabbè. Non c'è problema. Non c'è problema, a 170.000, sì, tutti a 170.000, dai. Sì, mettiamoli. 170.000 più veramente... Per carità, mettiamoli... Ma perché li dobbiamo pagare? Mandiamoli gratis. Mandiamoli gratis. Ma ma guarda che ne trovi a tonnellate. Parlo di dirigenti d'azienda privata. Sì, ovviamente, ma ho capito. No, ma può darsi che sia così e siamo tutti, come dire, imbecilliti, che paghiamo la gente troppo, parassiti vari, sicuramente ci sono i parassiti, però secondo me non è proprio quel posto lì in questo momento che è occupato da un parassita. Poi ovviamente se uno ne guadagna 600 invece di 850, se ne guadagna 500 o 400, non è che fa molta differenza, questo deve essere chiaro. Dove andiamo? Marco da Roma. Ciao Cruciani, buonasera. Vai, dimmi. Io chiamo per parlare con Parenzo, ma prima di parlare con Parenzo voglio dire una cosa anche a te, e la dico a nome di Insorgenza Civila, dei Neoborbonici, dei Comitati delle Sicilie, dei Briganti, del Levis, del MIS, di Napoletania e anche... Non ho capito bene, scusa. E anche del Parlamento delle Due Sicilie, a nome di tutti questi movimenti culturali... Culturali, sì, certo. Hanno sono culturali. Ma comunque quale culturali? Le dico il messaggio, poi voglio parlare con Parenzo. Ma Parenzo sta qua che l'aspetta, non si preoccupi. Sì, io intanto dico che lei ha stancato nella sua azione continuativa di buttare fango e melma sul sud. Ma quale melma? Ma me l'ha buttata da soli la melma addosso, in alcuni casi. Merda sul sud. Quando dichiara nella radio di Confindustria di non comprare prodotti del sud. Ma quando lei butta merda sul è impazzito. Sud, quando lei fa intervenire in diretta un poveraccio di Napoli e lo pubblicizza come l'unico esempio del sud, come il fatto che il sud campi su abusivi che vendono calzini. Lei, ma quale signor calzini? Cruciani, butta merda sul sud quando consente libertà a pazzi. leghisti di sputtanare continuamente il sud in tutte le sue forme culturali. Adesso per favore voglio parlare con Parenzo. Ma lei si è sputtanato da solo con questi interventi? No, non ho capito. Lei porti rispetto nei confronti di 20 milioni di cittadini e chieda scusa agli industriali che le pagano lo stipendio, gli industriali del sud, per cui lui, lei, il 4 novembre 2013, si è svegliato male, su dai, si è svegliato male. Il 4 novembre 2013 ha dichiarato sulla radio di Confindustria che non comprare prodotti del sud. Ma lei è malato. 20 milioni, 20 milioni di italiani le pagano anche a lei lo stipendio. Ma lei è malato di mente. Ma lei è malato di mente, le assicuro che è veramente malato. Si riascolti il podcast. Ora il podcast. 43 podcast, sì, riascolto il podcast, sì. Parenzo, eccolo qua, vuole parlare con Parenzo? Io l'affido. Mi dica, caro. Parenzo, chiedo scusa per il tono che ho usato per il suo collega. Io mi rivolgo a lei con un tono molto più pacato perché è la parte intelligente della trasmissione. Sì. Lei è ebreo e io mi rivolgo a lei con profondo rispetto. Ma che c'entra che è ebreo? Scusa, non ho capito. Per quello che il popolo ebraico ha patito. Ma che c'entra? Il popolo ebraico ha patito un olocausto. Io chiedo a Parenzo aiuto. Io chiedo a Parenzo un aiuto mediatico per diffondere la verità storica che ha praticamente occupato anche la storia d'Italia, del sud Italia, ha praticamente interessato il popolo meridionale prima dell'olocausto degli ebrei, del cui io me ne dispiaccio. Chiamo io, chiami tu. Un milione di morti, il sud Italia ha patito un milione di morti in campi di concentramenti, ecco, nel Piemonte, in provincia di Bergamo. Le fenestrelle è un fatto dello Stato italiano. Io chiedo a Parenzo un aiuto mediatico. Ma quale affinché aiuto? Queste verità, ma l'aiuto ha bisogno. Lo Stato italiano tace, su cui lo Stato, ma ha bisogno lei di aiuto. Adesso arrivano. Ma quale aiuto? L'aiuto ha bisogno lei. Parenzo. Le mando un'ambulanza. Ma quale Parenzo? Quello sta a Parigi a mangiare formaggi, che gli frega delle sue follie sull'olocausto nei confronti del sud. Adesso arriva. Dove abita lei, a Roma? Marco, dove abita? Io non si preoccupi dove abito, io non abito a Roma. E dove abita? Perché dice Marco da Roma? Lo dice fesserie? Perché lavora a Roma. Ah, allora mi dica dove la posso trovare, perché qui c'è un'ambulanza che sta girando. Le vengo ma lì. Ma non si preoccupi, guardi. Vanno lì, le fanno una punturina e via, lei sta ma tranquilla. Ma guardi, queste cose che io dico le dice anche persone come Pino Aprile, sì, Giorgio Del Bocca, uguale, Giordano Bruno Guerri. Vada a istruirsi. Arrivederci, grazie. Antonio da Roma. Antonio, dica. Non c'è più. Salvatore Reggio Calabria. Eccomi qua. Andiamo. Sì, allora io volevo dire questo. Innanzitutto invidio un pochettino il nostro francese Barenzo, e quindi beato lui che è lì in Francia. Volevo parlare a proposito, volevo spezzare una lancia a proposito dell'alimentazione per quanto riguarda la parte tumorale. Ecco, io mi voglio solo riferire a questo incontro che c'è stato del ministro della salute. Non voglio sentire di incontri. Lei parla, loro parlano, che deve fare parte della nostra vita, delle nostre abitudini. Cosa? Stili di vita, alimentazione, attività fisica, sì, la cura dell'ambiente, attività e quindi scrive. Guardi, il quindi punto fondamentale. Senza togliere niente alla medicina. No, scusi, senza togliere niente alla medicina, io dico che una buona parte. Ma non c'è dubbio che una buona alimentazione. Anche una, non solo l'alimentazione. Sì, ma il signor Red Ronnie ha detto un'altra cosa. Il signor Red Ronnie ha detto un'altra cosa. Ha detto che lui, se dovesse mai essere malato di cancro, e ovviamente, caro Parenzo, non glielo auguriamo, è evidente, si curerebbe non con le cure tradizionali, ma con la cucina macrobiotica. Adesso, francamente, insomma, no, Parenzo, che dici? Vabbè. La zanzara. Fratelli. Con noi, buonasera. Buonasera Cruciani. Come va? Bene, benissimo. Allora, ma Parenzo dov'è? È sparito? Dov'è? A Parigi è sparito? Che è successo? È morto? È morto il telefono da Parigi? Ah sì, io l'ammazzo quello là, io ti giuro, quando lo vedo lo strangolo, perché non se ne può più di questa cosa. Siamo costretti, caro Farinetto, è come se lei avesse, che ne so, un dipendente, diciamo, no? Che a un certo punto è un po' così farfallone, che non si trova, ogni tanto uno lo chiama, no? E lo devi rincorrere. A volte sono i migliori, e poi Parenzo non è un tuo dipendente, dai. No, questo pure è vero, però adesso non mi rimproveri pure lei su questa cosa, capidiora, ma no, fa... c'è, Parenzo! Ma sì che ci sono, mi è improvvisamente... Sì, improvvisamente, sì. Saltato... Sono a casa, improvvisamente è saltata la cosa e diceva Rien, Replu. Mamma mia. Dove può andare a mangiare questa sera a Parigi? Che cosa consiglia lei, Farinetti, a Parenzo? Ah, grazie, gli suggerisco un bistrò, un'osteria. Se ne trovano di quelle molto belle. Mi raccomando, deve essere un posto molto chic, però. Deve essere un posto perché. Cucina semplice. Poi sentitevi. Volevo capire questo da Farinetti. Nella zona del Beaubourg, dove mi trovo, c'è un posto dove si possono degustare formaggi francesi di fascia media, diciamo. No, alta, di fascia alta. Nel Beaubourg, ma che ne sa, Farinetti? 40 euro. Ma mica. Allora, gli dica questo: è nel quartiere delle Marais, quindi sì, vicino all'Hotel de Ville, sì, di andare dal Beaubourg verso l'Hotel de Ville e troverà un locale rosso. Lo riconosce perché è completamente rosso e hanno dei formaggi fantastici. Proprio sulla via, a 50 metri dall'Hotel de Ville. Capito? Ma posso poi dire che passa Farinetti, sì, a saltare? Monsieur Farinetti. Ma lo apriamo un bell'Italia a Parigi oppure non glielo fanno aprire, certo, a Parigi? Lo apro proprio, lo vorremmo aprire in quel quartiere lì perché lo trovo straordinario. Addirittura, e quando? Ma stiamo lavorando, c'è una roba targata 2016. 2016, siamo qui alto. Allora, andare dai francesi per Italy è un salto potente, difficile. Sono i nostri concorrenti diretti. È come piantare una bandiera lì, come fecero gli americani alle isole giapponesi. Il grande vantaggio della cucina italiana sulla cucina francese, che la cucina francese nasce nei restaurant, mentre quella italiana nasce domestica, quindi è replicabile e più semplice, ed è un vantaggio enorme per noi italiani. Pensa ai francesi che fanno la fila, magari, fanno la fila, bellissimo. Sarebbe una cosa straordinaria, che fanno la fila per entrare lì, no? Tutto con la bandiera italiana, diventerebbero pazzi alcuni francesi. Sotto questo, Cruciani, a Chicago, nell'Italia di Chicago, mio figlio ha fatto tutta l'immagine, no? A un certo punto non sapeva come chiamare i bagni, e allora a Chicago li ha chiamati toilette, e poi ha scritto in inglese scusateci, l'unico posto dove non c'è cibo l'abbiamo chiamato in francese. Se arriva dei turisti francesi, insomma. Però non lo dica troppo quando deve fare, quando deve aprire a Parigi, Italia, magari c'è qualche problema col comune, perché se questa cosa circola qualcuno potrebbe inalberarsi. Senta Farinetti, lei che certamente non è un guerrafondaio, lei con questi famosi F-35, ieri sera ho visto una battaglia pazzesca a servizio pubblico tra Gino Strada e Mario Mauro, ex ministro della difesa, che diceva ci sono le ragioni, le ragioni delle alleanze, non è che siamo lì nei paesi dove siamo a portare la pace, eccetera. Lei lo confermerebbe sto appalto degli F-35? Fosse il Renzi, cosa farebbe? Lo taglierebbe subito? Se potessi non lo confermerei. Cioè lo taglierebbe? Sì, io sarei per risparmiare moltissimo sulla difesa. Il grande problema è che non siamo ancora riusciti a fare l'Europa vera, perché riuscissimo a fare l'esercito europeo, pensi che sinergie che potremmo fare. Io addirittura sarei per un'Italia neutrale. Cioè senza rafforzerei la sicurezza interna. Soprattutto, cioè fuori dalla NATO, dice lei, un'Italia neutrale. E poi per il resto risparmierei un sacco di soldi. Cioè fuori dalla NATO, dall'alleanza, tutte queste. Quando mi dicono "Ma poi se ci attaccano", io rispondo tanto perdiamo lo stesso anche con la nostra difesa. questo pure è vero. Poi con i militari un po' da operetta che abbiamo, diciamo, spesso sono da operetta, ma anche di bravissimi, no, per carità, tutto. E credo sia questo l'ostacolo maggiore, diciamo la lobby, chiamiamola pure virtuosa, dei militari italiani, che però è arrivato il momento di fare delle scelte. Sa come in una famiglia, quando non c'è più i quattrini per arrivare alla fine del mese tagli qualcosa. Ecco, però da questo punto di vista, Farinetti, io devo dire la verità, io sa che non è che non avessi simpatia nei confronti di Renzi, però vedo troppi tentennamenti. C'è anche qui l'F-35. Se vuole prendere una decisione, non è che si può cominciare a dire dobbiamo studiare la cosa, allora, ristudiare Cruciani, ancora una volta. Cruciani, non si metta anche lei nel grande esercito di quelli che hanno assistito, come me, come tutti, per 20 anni che non hanno fatto un tubo, adesso dai primi 3 mesi incominciamo già a vedere il tentennamento. Beh, certo, perché intanto uno ha aspettative ragazzo, alte. Il ragazzo ha fatto robe. Immaginiamocelo nell'ambiente romano, nell'ambiente della difesa, con tutto questo. Come ci arriva? Vedrete che arriva anche in quello. Arriva. Adesso intanto dobbiamo abolire le province e il Senato. Sembra una cosa finta, sta cosa delle province. Il Senato pure, c'è una riforma, caro Farinetti. Il Senato è una riforma pasticciatissima. Ho letto una cosa incomprensibile: i sindaci partecipano, i consiglieri regionali, non si sa bene che competenze ci sono. Aspetta, Cruciani, la prima cosa più importante è abolire il bicameralismo, cioè il doppio voto ogni volta. La lentezza. Dopodiché andiamo a cercare di dare al Senato, il Senato non a costo, con nessun stipendiato, magari possiamo andare lì a far rappresentare i territori. Secondo me non ma è che voto darebbe a Renzi fino adesso? Però sincero, non da tifoso di Renzi. Ma io non sono un tifoso, guardi. Vabbè, amico tifoso. Lei è onesto dal punto di vista intellettuale, persona onesta. Dunque, che voto da 1 a 10? Che allora, voto? Ma gli do 11, si può dare 11? Ma no, allora, 11 su. Lei lo sa benissimo che governare questo paese è una roba complicata, difficilissima. Allora io almeno gli do 11 al voto del coraggio e della forza e dell'energia. Non lo trova un po' ingrassato? Lui risulta. Sì, ma a volte è la televisione che ingrassa, sa. I politici ingrassano perché, per sapere, magnano. E Renzi ha cominciato a mangiare. Dice lei. Sarà così, magna. Lo vede un po' ingrassato, gli dica, vada, faccia qualcosa. Non glielo diciamo. Sta pancettina così, cioè. Ma però, comunque non si farà plastica, non si farà. No, quello per carità, per carità. Ma scusi. Dimmi, Parenzo, dimmi, caro. Farinetti, no, voglio capire, ma secondo lei a questo punto veramente Renzi potrebbe passare alla storia per l'Italia, no? Perché ne parla come davvero già uno che sta già facendo la storia di questo paese. Sta già facendo la storia, Farinetti, sì. Sì, io non credo che sia la sua prima preoccupazione, cioè quella di diventare più bravo di Cavour, come già ha tentato di fare qualcun altro prima. La sua preoccupazione è di riuscire a mettere a posto un attimo questo paese. Sì. Tenete presente che non si risolve tutto con la politica, eh? Stiamo dando un'importanza. Ma no, ma siamo noi che dobbiamo fare molto. Bravo, siamo noi. Gente quando dice i politici non fanno niente, ma siamo noi i primi a dover fare qualcosa, non solo i politici. Se per caso riuscisse a fermare un attimo la cosa che mi interessa di più, la disoccupazione, e a creare degli scenari per fare in maniera che riprenda un po' l'impresa, l'economia, secondo me può passare la storia, come può passare la storia finalmente per eliminare degli istituti inutili, per dimezzare il numero. Speriamo, fino adesso provvedimenti concreti. Sta arrivando, diamogli un po' di tempo, dai, un po' di fiducia. Nella vicenda della casa, diciamo la verità, Farinetti, nella vicenda della casa noi qui abbiamo picchiato duro anche qua la zanzara, e secondo me lì c'è stato qualche pasticcio. Cioè, però tu non puoi dare la casa in affitto. Ma non è vero, ma che casa è in affitto? Ma io ho ospitato un sacco di gente degli amici a casa mia. Ma che quella c'entra? È una stupidaggine, Cruciani. Ma noi ci occupiamo di queste stupidaggini perdendo di vista i grandi problemi. La residenza lì e nello stesso tempo Carrai aveva degli appalti dal comune o dei lavori dal comune. No, ma Carrai, guarda, io conosco benissimo. Ho detto che è un crimine, ma non fermiamo. Se noi distruggiamo tutti quelli che ci provano a fare qualcosa per questo paese, attaccandoci a queste cagate. Queste piccole ma veramente c'è chi ha attaccato Renzi, che ne so, Libero per esempio, che ha attaccato Renzi, come si è comportato? Vabbè, ma chi è, cosa mi stai dicendo, che Libero ha attaccato Renzi? Ma è Libero, ha fatto l'inchiesta sulla casa, fanno quello di mestiere, sono giornali scandalistici e fanno quella roba lì. Però per me è tempo perso, secondo me è tempo perso, non serve a nulla. Ma sono anti italiani, lavorano contro l'Italia secondo lei? Questo assolutamente no. Tra parentesi, anche sia all'interno di Libero che all'interno del Fatto Quotidiano ci sono dei giornalisti molto bravi e molto seri. Un attimo solo, torniamo dopo la pubblicità. Oscar Farinetti collegato da casa sua. Siamo qui, La Zanzara. Era offensivo, era sgradevole, era disgustoso. Vuole che vada avanti? Una volta ha voluto che approvassi un concorso in cui l'ascoltatore che produceva le feci più grosse. In onda. Immagini l'organizzazione logistica. Fratelli d'Italia, la vita è una pena, si offende per Crozza. Ogni tanto io praticamente accosto Crozza e Razzi nella stessa persona. Cioè. No, non mi offendo affatto. La satira è una meraviglia, la satira è preziosa, bellezza. Non bisogna mai arrabbiarsi per la satira. E poi lui con me non fa altro che fare come altri, che prende i punti di debolezza e li esaspera. E siccome ne ho anch'io, ne ho molti. Capito, Parenzo, allora noi stiamo parlando qui con Oscar Farinetti, patron di Italy, che è uno che se ne fotte della cultura, pensa solo ai soldi e alle salsicce, capito? Ma non capito? È vero, ma non è così. Ma no, te lo dico io, se ne fotte, fattelo dire da me, amico mio, se ne fotte della cultura, pensa solo ai... Io quando ho letto una cosa del genere da parte... Il cibo può far parte della cultura, mica soltanto... A me lo dici, a me lo dici. Dopodiché... È evidente che la polemica con Adriano Celentano, perché a questo fai riferimento, e al teatro Smeraldo, cioè Celentano perché ha detto una sciocchezza? Perché effettivamente se voleva davvero il fatto che i teatri italiani abbiano dei problemi di soldi, su questo non c'è dubbio, perché bisogna aiutarli, questo è vero. Come la fai lunga? Come la fai lunga? Dopodiché, se Celentano veramente avesse voluto, ma perché non tirava fuori i soldi che ha preso da Rock Politique, lì come si chiama quella straordinaria trasmissione, e non ha contribuito, non ha dato i soldi agli amici del Teatro Valle? Ben venga Farinetti o altri che vorranno comprare e rendere vivi quei posti. Sì, ma poi chi se ne frega del Teatro Smeraldo, era un posto banalità, morto, ma era un posto morto il Teatro Smeraldo, morto, finito, su, dai. Mi vergogno della... Ma vi siete sentiti con il signor Celentano o no? No, nessun problema, ma anche lì ha nessun problema, lei ha detto che le sue robe non c'è problema. L'unica cosa che mi piacerebbe, a parte si dice appestato una M. Una merda, sì, appestato una merda, vabbè, sì. Ecco. Perché adesso gli mando appena posso l'elenco di tutti i teatri e le librerie, ahimè, che stanno chiudendo in Italia. Io lo mandi, va. E faccio uno sforzo. Però io invece lo sfiderei a venire dentro lo Smeraldo, perché cambierebbe idea addirittura sul livello culturale delle mie salsicce, che non sono inferiori a quelle delle sue canzoni. No, ma lei lo sfiderebbe a un dibattito allo Smeraldo? Venga a fare un dibattito. Certo, un dibattito. Ma che c'è tra di voi? Pazzi, che c'è tra di voi? Che è successo? Perché lei ha detto mi odia? Per quale motivo? No, ma io non... Lì è un'errata cosa, come al solito, il Fatto Quotidiano scrive, sempre si inventa il titolo, mai detto mi odia. Quando intendevo mi odia, l'avevo detto al Fatto Quotidiano, non a Celentano. Non so perché, si vede che lui ha visto roba e d'impulso si è arrabbiato, perché in effetti posso capire ad un artista che chiudono i teatri si arrabbia. L'unica cosa che non ha capito bene è che non è colpa mia, forse è più colpa sua, più colpa di chi fa cultura, di chi da anni fa cultura, e che dovrebbe preoccupare. Ha sbagliato il soggetto della sua rabbia. Ma io poi non ho capito una cosa: se uno vuole aprire un ristorante e glielo fanno aprire secondo le regole, secondo le leggi, non perché non è che Farinetti ha preso un carro armato, ha bombardato il Teatro Smeraldo, l'ha occupato militarmente e poi si è costruito il ristorante, semplicemente ha fatto un business. Uno dovrebbe essere... Cruciani, la prego, venga a vedere lo Smeraldo Milano. Ma io non sono... Che non è un ristorante. Domani, adesso. L'altra sera ero a cena con Edoardo Bennato, poi alla fine ha preso la chitarra e ha fatto un concerto. Certo, è suonato. E ogni sera c'è musica dal vivo con dei giovani bravissimi. Vabbè, adesso non facciamo troppa pubblicità, sembra che facciamo le cose. Vabbè, però comunque, ma lo so, io conosco benissimo quei posti, ancora non ci sono andato perché... Ma a proposito, ma la vicenda di Dolce & Gabbana, per esempio, no? Lei l'ha letta sui giornali, no? Ho letto che il pubblico ministero gli ha chiesto una soluzione. Ecco, ma questa cosa è incredibile, perché uno viene condannato in primo grado, adesso il pubblico ministero dell'appello, ribaltando completamente la filosofia anche sul modo in cui si pagano le imposte, ha detto che questi qua hanno diritto ad andare all'estero ad aprire una sede e che è permesso dalle leggi europee e che la società esiste, ma insomma, uno che deve investire in Italia, questa giustizia... No, ma lì il problema è che dall'altra parte c'è l'Agenzia delle Entrate che cerca, lì posso anche capire di beccare più quattrini possibili. In realtà io non credo che Dolce & Gabbana, un'azienda così grande, abbia fatto cose contro la legge. Questo... Il tema è che le leggi in tema fiscale sono anche loro soggette ad interpretazioni. Il grande problema è che bisogna semplificare la burocrazia e le leggi in maniera che non ci sia più questa roba dell'interpretazione. Ma lei ce l'ha qualche società all'estero? Sì, ne ho diverse. Italy in America, Italy in USA, però paghiamo le tasse. Società all'estero, dico qualche cosa portata all'estero per pagare meno tasse, cioè per pagare meno imposte. No, mai nella vita, non lo farò mai. Ma se qualcuno... Ho portato soldi all'estero per aprire Italy in America, insomma. Ma se qualcuno di straniero volesse comprare Italy ad un prezzo pazzesco, lei lo venderebbe? Ce n'erano, ce ne so, ma lei... non posso fare i nomi, ma ce n'erano anche di importanti. No, non l'ho fatto e non lo farei. Secondo me Italy deve restare italiano, Beh, adesso ho venduto un 20%, ma degli italiani, ad un gruppo di italiani, e così mi ha messo anche un po' di quattrini. Il tapiro d'oro, l'accusa a Striscia, l'accusa di avere sacchetti cinesi, magliette, eccetera, persino il tapiro d'oro. Sì. Sì, noi facciamo lo 0,01% di fatturato di sacchetti e di magliette, però io quando vado in Cina vendo di Barolo, Barbaresco, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, perché noi vogliamo, abbiamo una filosofia strana alcuni italiani sui chilometri zero, che valgono solo per gli altri, cioè noi possiamo andare, dobbiamo andare nel mondo a vendere le nostre eccellenze, ma non dobbiamo comprargli nulla. E allora quando andiamo in Cina a vendere le robe magari li compriamo dove... Sa Gasparri cosa ha detto quando ha visto quel video di Striscia la Notizia? Farinetti, persona pessima, vende roba asiatica, virgola, insulta. Signor Gasparri. Gasparri, signor Gasparri. Lo sa che è un... Ah, Gasparri, quello d'ex Movimento Sociale, AN, Forza Italia, adesso Forza Italia, vabbè. Comunque. Ognuno le sue. Ognuno le sue. Senta, però diciamo qualcosa su questa roba del lavoro, no? Perché qui, caro Farinetti, Renzi potrebbe essere preso dalla tagliola, dalla tenaglia di quelli della minoranza del PD che non vogliono questa, i contratti precari, eccetera, eccetera. Ma fosse per lei, non dovrebbero essere tutti precari i contratti? No, tutti precari no, ma dobbiamo consentire all'impresa di avere un minimo di tranquillità, le imprese che assumono, di poter provare le persone e stare tranquilli. Cioè libertà di licenziamento ci vorrebbe o no? Un po' più di libertà di licenziamento? Assolutamente sì, come negli Stati Uniti, come ci dovrebbe essere la libertà di licenziarsi, se tu hai voglia di licenziarsi. Beh, quello c'è sempre. E dall'altra, però, fatto salvo che non ci siano situazioni razziali o situazioni... Vabbè. Cioè lei l'articolo 18, famoso articolo 18 lo cancellerebbe subito. Ma è l'ultimo dei problemi. Ma tu puoi fare l'articolo 18 bis, 18 al quadrato. Se un'impresa non è creativa, non lavora, non vende, vabbè, quella è puoi chiaro, avere tutti i cosi che vuoi, alla fine sei obbligato a licenziare e fare la cassa. Ma questi qua della sinistra del PD che fanno la guerra a Renzi, quelli. I problemi sono di rilassare il CGL, la CGL italiana con la creatività. La CGL che sono? Arretrati. La CGL è una delle corporazioni italiane, ce ne tantissime. Noi in Italia abbiamo reagito alle crisi con le corporazioni. Ma lei è contento che Renzi si ribelli alla CGL? Quella è una mossa, non tanto la CGL, in generale. Beh, che anche a Confindustria. Gli italiani e non perda tempo in mille tavoli come è stato fatto negli ultimi 20 anni. A me spiace perché in queste corporazioni c'è anche gente molto in gamba e molto seria. Però lei dice sono un ostacolo spesso. Come è impostato oggi, che prima di fare una roba devi fare mille tavoli con tutte le corporazioni, un casino. I taxisti, gli idraulici, gli avvocati, i farmacisti. No, ma questo è vero, centinaio. C'è niente. Ma c'è. Ma perché non governa lei, Varinè? No, perché in governo io governo cerco di governare un po' la mia azienda, faccio una fatica enorme. E dai, su, governiamo un po', faccia un po' di casino. Senza di farlo. E poi pensi se io dovessi mai fare politica, come si scatenano? Già ce l'hanno con i magistrati, me. Si scatenano perché apro un teatro. Pensi cosa me ne dicono? Me no, si scatenerebbero i magistrati, guardi, sono sicuro. Ma praticamente questo è un problema un po' del nostro paese, che ci spariamo addosso tra di noi e che ti fa passare voglia. A volte ti passa la voglia di... Senta, ma consiglierebbe a Marina Berlusconi, a Pier Silvio, Di Barbara di candidarsi oppure di lasciare perdere? Sì, di candidarsi alle primarie insieme ad altri e poi... Vabbè, quelli non le fanno le primarie, non le vogliono fare. Sa chi vedrei al posto di Berlusconi? Chi? Cattaneo, sindaco di Pavia. Addirittura. Secondo me Berlusconi farebbe una mossa fantastica. Mette veramente un anti-Renzi e riprende voti. Ma sbaglia a non farlo. Cioè, personaggio giusto. Il sindaco di Pavia per Farinetti è la persona giusta per fare l'anti-Renzi. Giovane, dice. Per rappresentare il centrodestra italiano. Sì, però anche lui dovrebbe essere eletto dalle primarie in maniera normale, ma anche i figli. Di Berlusconi secondo me hanno stradiritto a candidarsi alle primarie, però devono passare le dice abbiamo esempi in tutto il mondo, Stati Uniti, Bush padre figlio, Kennedy padre, Kennedy fratelli, ma tutti hanno fatto le primarie. Senta, ma invece questi sottosegretari indagati, ce n'è alcuni per robe che riguardano la regione, la Barraccio e altri del PD, che devono fare secondo lei? Ecco, io non sono pratico, ho sentito dire che però sono fesserie, cioè non è roba grave, sono fesserie. Beh, fesserie, i rimborsi regionali in alcuni casi addirittura abuso d'ufficio. Ma sembra che siano state fesserie, non lo so, non mi faccia dire robe che non conosco. No. Senta, invece però i vertici delle aziende, che deve fare? Per esempio uno come Scaroni, va tenuto oppure no? Uno come Scaloni va tenuto, sta prendendo Gesù è molto in gamba, a me quegli stipendi lì mi sembrano un po' esagerati. Cioè 6 milioni di euro per Scaloni, altri è troppo. Cosa dice Cruciani? Non ne sembra un po' tanto. Beh sì, 6 milioni sono tanti, 6 milioni sono tanti. Però sa, Leni. Vabbè, però io sarei per questa visione di Matteo, di Renzi, di mettere uno stipendio più o meno come quello del Presidente della Repubblica, che chiaramente pure Scaroni, pure Alleni, tutti uguali. Aspetti, poi metterei dei premi con delle performance. Mm. Comunque Matteo Renzi è in televisione pure stasera da Mentana. Da Mentana pure stasera. Cioè, digli di andare meglio in televisione. Io meno la zanzara, se no non lavoriamo più, cavolo. No, ma un'ultima cosa, ma alla Rai, per esempio, chi metterebbe lei alla Rai? Alla Rai non ho la minima idea, però se posso dire, non so, presidenti, personaggi come Veltroni, a me piace tanto, io stima per lui. Veltroni alla Rai. Veltroni. Per esempio, ma anche adesso non viene Minoli, comunque, è un altro personaggio. Minoli adesso sta Radio, Minoli. Sta Radio 24. Adesso, Secondo me Minoli è un altro bravo. E francamente lascerei il direttore Gubitosi. Ma Scaroni deve rimanere, secondo lei? È bravo e deve rimanere, signor Scaroni. Anche secondo me. Deve rimanere. No, anche secondo me, lo dice lei, io a me che ne so se è bravo. Credevo fosse una no, assolutamente. Vabbè, a presto. Grazie Cruciani, salve ciao. Parenzo. Ciao. Amico mio, te lo dico d'amico, fatti i cazzi tuoi. La zanzara. Oh mamma, vinci con la zanzara. Perché io devo mettere la testa a posto. Adesso c'è Cruciani che c'ha una missione di trovarmi fidanzato, questo qua. Sì, perché tutti single siete diventati all'improvviso, tutti single. Non è vero. Tutti single. Non è vero. Vabbè, lei ce la come, da quanto è single? Da 4 anni. Ogni giorno sul mio palco recita lo stesso show. Di Pupa Loro, cristallo e vino, dolce vita però. Peppino e Totò, le mie ex dicono che sono un bastardo bugiardo, ma io gioco d'azzardo, la mia vita è un casino. Continua il grande reality sull'Ara Comi. Innanzitutto c'è pure Razzi che pensa che bisogna trovare un fidanzato abruzzese, no? Un fidanzato abruzzese per l'Ara Comi. Che dice Razzi? Che dice? Fantasie di avventuriere straniere, amori che si rivelano chimere, le puoi vedere sparire alla luce del mattino come un sogno. Adesso basta, ora so di che ho bisogno. Su Facebook ha cambiato foto? Sì. Mamma mia, non l'ho voluto scrivere. Perché mamma no? Mia, cioè, mamma mia, che bellissima. Bellissima. La gnocca pazzesca, diciamo la verità. L'hai detto tu, guarda. No, l'ho detto io. Ma tu lo conosci. Una gnocca bellissima, pazzesca. Bellissima donna. Come fai a non votare una di come Lara Comi? Allora, Nicolò, consulente, 27 anni. Sentiamo un po', va. Ciao Lara, sono Nicolò, 27 anni, sono un giovane ingegnere di Milano che lavora presso una delle più importanti realtà di consulenza al mondo. Sono un grande lavoratore, ma nonostante questo mi appassiono di varie cose, prima tra tutte sicuramente l'enologia e poi la politica, che seguo da quando ho 13 anni. Credo di essere un ottimo partito per te, nonostante io segua la politica, non sono assolutamente legato a nessun partito e quindi potresti trovare in me un ottimo spunto di conversazione e di dibattito politico. Mi farebbe molto piacere incontrarti, ciao, ci sentiamo. Vabbè, questo qua è neutro, si poteva presentare un po' meglio questo Nicolò, 27 anni, cioè sembrava che ce n'avesse 55, cioè 27, cioè, sembrava mi sembra debole. Debole, molto debole. Gianluca è impiegato, 33 anni, sentiamo questo, va. Ma mi senti bene tu? Sì, insomma, era meglio all'inizio, comunque, vabbè, che dobbiamo fare? Tocca soffrire, dai. Perché sono, sai con cosa sono? Con il wifi ora. Beh, ho capito, ma non è che possiamo fare gli esperimenti in diretta, maledizione. No, cioè... non è un esperimento, è per testare la qualità. Cioè, ma non possiamo testare in diretta, amico mio. No, lo so, però. Non ti puoi fare i cazzi tuoi in diretta. No, ma a differenza di Red Ronnie, noi siamo per la scienza. Siccome prima mi era saltato completamente, forse perché non ho pagato le bollette, non so perché. Ma non lo so, telefono, fammi sentire Gianluca, dai. Fidanzare me è un'ingiustizia per la popolazione. Ciao Lara, mi chiamo Gianluca, sono di Cassino, provincia di Frosinone, ho 33 anni, sono un impiegato e voglio fidanzarmi con te perché ritengo che sei una ragazza molto competente, a parte carina e simpatica, ma penso che per il lavoro che fai hai bisogno di una persona che insomma sappia starti vicino, che possa consigliarti e aiutarti, insomma. debole pure questo, debolissimo, ragazzi, su. La zanzara è radio24.it. Ma volete fidanzarvi con la signorina Comi, splendido essere femminile del Parlamento Europeo di Forza Italia? Avete visto la foto che dice Raggi, la foto bellissima, la grande gnocca. Su, dai, Francesco, 37 anni, avanti, andiamo un po' più su. Ciao, mi chiamo Francesco, 37 anni, sono un contract manager e voglio la Raccomi perché sono in grado di essere alla pari con lei, perché è una donna in gamba, ne ammira la dedizione al lavoro e la passione politica. Di conseguenza credo di essere la persona giusta per temperamento, carattere e cultura per candidarmi come suo fidanzato. Ma che vuol dire alla pari con lei? Io dico, se uno fa una dichiarazione alla pari con lei, ma che vuol dire? Uno dice penso di essere alla pari con lei, temperamento. Bah. Voto a questi tre, quattro a tutti e tre, quattro, anzi forse meglio i primi, l'ultimo. Ma anche due. No, due, se non esageriamo, dai, su. Ma sì, perché gente sciappa. Vabbè, dai, Marco Grosseto, dai, Marco. Però ti volevo dire, grazie per avermi chiamato. Che volevi dirmi? Un attimo, Marco, che mi volevi dire? Sai? Quando tu hai lanciato questa grande campagna, diciamo, consigliamo un ristorante a Parenzo, con Farinetti, mi stanno arrivando su Twitter segnalazioni straordinarie. Ad esempio, la signora Vanessa Pisani mi scrive: Monsieur Parenzo, se vuoi te lo do io un buon posto dove andare a mangiare a Parigi, très chic. Ha scritto l'indirizzo, tutto l'arrondissement. Cioè, questa, e questo, diciamo, sarebbe l'uomo di sinistra, l'uomo della sinistra italiana, l'uomo della sinistra italiana, dai, forza, Marco Grosseto. E quindi volevo portare appunto questa testimonianza su questi centurioni. È veramente scandaloso quello che vedo tutte le mattine andando a lavoro in Santa Francesca Romana, dove faccio il restauratore. Allora, al di là del fatto che uno di questi entrò in chiesa qualche mese fa e ha spaccato porte, insomma era impazzito, l'abbiamo fermato, l'ho fermato io, che ha spaccato mezzo altare del Bernini, ma diciamo quello che loro trasmettono, si vestono in mezzo ai turisti, cioè li trovo spesso in mutande, veramente uno spettacolo indegno che accade solo in Italia, solo in un posto com'è il Colosseo e tutta la zona. Ma hai ragione, Marco, per carità, cioè... E quindi Parenzo alle volte esagera con questo buonismo per cui non fanno niente di male, ma assolutamente sono degli arroganti, molto spesso io non lo so, alcuni sono arroganti, altri no, probabilmente non è che sono tutti arroganti. Dopodiché quel lavoro lì è ammissibile che di fronte a uno dei più grandi monumenti italiani ci siano abusivi, baracche, gente che vende magliette? Ma non esiste. Dai, su, e dobbiamo assistere a questa ipocrisia, e dobbiamo assistere a questa ipocrisia che a un certo punto arriva Obama, tutto via. Dai, e poi si ricomincia da capo, ma che è? Assolutamente, io non ho parcheggiato neanche l'auto, quindi non entriamo in questo argomento. Però quello che volevo dire, accade solo in Italia che in un monumento in quella maniera, nello scempio che sono adesso, i fuori imperiali, con quello che stanno facendo, la metropolitana, tutte quelle cazzate lì hanno messo. No, cazzate, la metropolitana è importante, però. No, è importante, dottor Cruciani, ma la Basilica di Malsenso hanno speso l'ira di Dio soltanto per sorreggere, ma insomma si poteva pensare, forse, non lo so, in questo periodo si poteva ma pensare. A favore degli abusivi, di tutti questi qua che fanno, basta che lavorano, lo dice, no, vero Parenzo? Basta che lavorano, mettiamo al Colosseo, mettiamo pure il Circo Barnum davanti al Colosseo, basta che lavorano, no, abusivi. Non sono a favore degli abusivi quanto abusivi, ho detto semplicemente che ad esempio i signori gladiatori, che per la maggioranza sono peraltro rumeni, vanno fermati, controllati e accompagnati alla porta se sono clandestini, primo, secondo, se sono invece italiani o sono comunque hanno diritto di stare in Italia, dici, lui scusi, che lavoro fa? Faccio il gladiatore. No, ma il gladiatore non è un lavoro, cioè non è, faccio il gladiatore, che vuoi? No, è un lavoro, guadagni in nero, come guadagna, si può fare, non si può fare, così va fatta la cosa. Non è perché ci sta il gladiatore, accettiamo tutto. Siccome al Colosseo c'è il gladiatore, tu accetti il gladiatore anche se è un abusivo, prende i soldi in nero, giusto? Ma è chiaro che mi dà fastidio quando arriva e mi dice foto con gladiatore, ma che quale gladiatore? Non mi interessa il gladiatore. Però non mi disturba più, dico, ma quello lì è uno che si è inventato tutto sommato una roba. E quindi, premesso che sono contrario a fare l'albo dei gladiatori, non è che devi fare l'albo dei gladiatori, perché sarebbe allucinante fare l'albo dei gladiatori. Dico, ma insomma, chiediamo un occhio. Questa qui è gente. Chiudiamo un occhio. Ma la tua filosofia è chiudiamo un occhio, chi se ne frega? Beh, oggi ho assistito, caro Parenzo, a una scena meravigliosa, testimonial di uno dei referendum che ha proposto la Lega, che che ho firmato anch'io, seconda firma, ne sono assolutamente orgoglioso, quello per la abolizione totale della legge Merlin sulla prostituzione, che significa poi legalizzazione, tessera sanitaria, speriamo fuori le prostitute dalle strade, via dalle strade, anche se a me non è che diano poi così fastidio, però comunque diciamo che è meglio non averle per strada, no? C'era la signora Efe Ball, che subito ha cercato di toccarmi il pacco, te lo dico subito, caro Parezzo, cioè, ha cercato subito di toccarmi il pacco. Non so se l'ha fatto pure con, non lo so, ma con me si è per... No, a me no, Maroni no, non si è per. E che cos'è? Che è un bel ambiente. No, ambiente di maiali. Ma no, di maiali, era un ambiente tranquillo, le posso assicurare. Caro Taormina. C'era ovviamente anche Matteo Salvini che è con noi, buonasera. Buonasera, vieni a firmare.org. Vabbè, org. Questo lo sappiamo, adesso questo è chiaro. No, vieni a firmare. Lei lo sa, ma gli ascoltatori no. Per firmare, per cancellare la legge Merlina e la legge Fornero, vieni a firmare.org. Vabbè, però io non ho firmato solo per la legge Merlina, la legge Fornero non me ne può fregare. È già uno sforzo. Va bene. Allora, io voglio dire. Sarai anche il primo cliente un domani, oltre che il secondo firmatario? No, il primo è. Ah, tu dici a me o a Salvini? Non ho capito, Davide. Io dico a te se sarai il secondo cliente. No, no, ma che non è detto, magari mi rincoglionisco, non c'ho più una donna, devo andare a puttane, che ti devo dire? Cioè, magari che ti devo dire? Però non lo escludi. No, no, certamente non si può escludere nulla, ma anche tu non lo dovresti escludere. Magari ti lascia tua moglie e sei costretto a andare a mignotte. Abbi pazienza. Ma guarda, io escludo di Salvini pagare. Lo esclude prima o poi, non può escluderlo, no? Mai nella vita si può escludere nulla. Appunto, non si può escludere totalmente. Poi insomma, dite, ma perché? Se uno deve scegliere, tanto vale che vada in un ambiente protetto, controllato, pulito e profumato. Ed è il motivo per cui ho assolutamente firmato queste cose. Ma dovrebbe essere, ecco, Milano, per esempio. Vogliamo trasformare Milano in una Amsterdam italiana? Insomma, sarebbe straordinario, no? Tu che vuoi fare pure il sindaco di Milano, ma te? Guarda, piuttosto che mettere la testa sotto la sabbia e fare finta che il problema non esista, per l'Expo l'anno prossimo pare che arriveranno 30.000 professioniste in città. Invece che averle sui viali, preferirei averle in uno o due quartieri, tre quartieri. Non ce la faremo per l'anno prossimo. Non per ce l'anno la faremo. Prossimo sicuramente no, perché se raccogliamo 500.000 firme, cosa che mi auguro a partire da domani, il referendum si fa entro un anno. Ma però scusate, però, ma 30.000, che ne sai di questa stima? Cioè sono state previste? È stato previsto? Sì, e sai, se per Expo sono stimati 30 milioni di visitatori, ovviamente. Cioè Milano si riempirà di puttane, Milano si riempirà di prostitute. Si riempirà di lavoro, è lavoro. No, ma io per lavoro oggi esentasse, a me piacerebbe che fosse lavoro tassato come tutti gli altri lavori. Parenzo, ti stupisci di questa cosa? Non ho capito. Sei... No, questo mi sembra un dato veramente interessante invece. Cioè, lui dice per l'Expo si riempirà la città di puttane, tu dici? Ma perché c'è? Chi è che c'è il bambino? Parenzo o Salvini? No, sono io. Ho il telefono con la sinistra e sto dando la frutta alla mirta con la mano destra. Ma siamo al però top. Però se vuoi ti posso far sentire anche il mio. Ah, facciamo benissimo. Benissimo. Fai parlare Mirta, che è un po' più grande, col signor Anna. Com'è che si chiama? Elia Nathan, scusami. No, non volevo. Elia, sei ebreo, Parenzo. Elia. Eli Nathan. È la lobby. Ciao, è la lobby ebraica. La lobby ebraica al massimo. Ma perché devi dire sempre delle stupidaggini enormi? Enormi. La musichetta non è mia, La musichetta, no, musichetta è nostra, mia. Che c'è l'incontro di due bambini. Mirta, la figlia di. Se lei potesse, verrebbe a firmare anche lei. E vieni a firmare.org. Vabbè, ridaglie questo vieni a firmare.org. Aspetta. Non usare. Sta salutando l'amico Cruciani, sta facendo ciao ciao con la mano. Sta salutando Eli Nathan. Dov'è Eli Nathan? Fammi sentire la voce di Eli Nathan. Sta riposando perché, siccome ha sentito Padania Libera, si è addormentato. Si è preso un coccolone a 6 mesi, a 5 mesi. No, ma si è zitto perché ha avuto. Ecco, non vuoi. Scusa, allora, per onestà. Eccola qua, Mirta. Mirta Salvini. Oggi c'erano a firmare il governatore della regione Lombardia, Vittorio Sgarbi. C'era pure Vittorio, Efe Ball, uno dei più noti trans. Beppe Cruciani, uno dei più noti giornalisti. Sì. E quindi di tutto e di più. Bello, no, ma colorato, figuriamoci. Bello... Ma io sono contento di aver fatto questa cosa, per carità, assolutamente. Però devo dire una cosa, ma tu dovresti rompere. Candidiamo Efe Ball. candida, tu la candideresti per la Lega FBAL, capolista FBAL? Beh, straordinario. Vabbè, adesso bisogna vedere le prime elezioni che ci sono a portata di mano, sono le europee, io non so se sia no, l'euro FBAL, l'europee magari contro l'euro, mai, magari, visto ma che quella se gli dici di candidarsi contro l'euro ti dice che pure contro no, un passo per volta. Io però non amo i partiti che candidano i cantanti, i calciatori, le ballerine, però non lo, escludi. Beh, in futuro chissà se si lancia in una battaglia contro l'euro, contro l'immigrazione clandestina, lei che è turca, contro l'ingresso della Turchia in Europa, e perché no? Perché no? FBAL candidata, perché no? Perché no? Ma sarebbe una grande cosa, Parenzo. FBAL in Parlamento, come sarebbe? Non sarebbe una cosa straordinaria? Questa qua è Mirta, non è Elinadan. Beh, appena guarda, sì, hanno avuto, no, lui non, no, la Padania Libera, no, non reagisce, no, a Padania Libera. Ma per una sera che non l'ho detto Padania Libera, cioè ci deve essere Parenzo che mena il torrone. Ma Parenzo, la firma contro la legge Fornero me la dà? Oddio, con sta legge Fornero, che no, fissazione contro, no, la legge. Io sono a favore della legge Fornero. È a favore. È a favore, uno non può essere a favore, è a favore. No, per carità, in democrazia c'è tutto, ma lui ha mai visto in carne e ossa un esodato? Vabbè, uno di quelli che devono lavorare 5 vabbè, anni. Non è che se abolisci la legge Fornero, non è che risolvi il problema degli esodati abolendo la legge Fornero. Esatto. Beh, torni, esatto. Ma se Mirta Fornero, dimmi la verità, però, Matteo, io faccio una domanda molto cattiva. Se stai Mirta un giorno ti dovesse dire voglio fare la prostituta, tu come reagiresti? Ma no, adesso va bene tutto. No, eh beh, oh, perché? Se tu vuoi legalizzare e pensi che siano persone normali, ci sta pure questo. Legalizzo per gli altri, spero di non avere questa necessità in casa. E vabbè, ho capito, però uno dovresti reagire dicendo accetterei la cosa tranquillamente. Se sono professionista, come tu dici, Tranquillamente no. Tranquillamente no. Tranquillamente no. Legalizziamo per gli altri, diciamo. Ognuno da adulto fa quello che vuole. Diciamo che preferirei qualsiasi, non so, l'infermiera, l'insegnante, qualsiasi altra cosa. Ti fidanzeresti con Lara Comi? Stiamo facendo un grande concorso noi, eh? Grande concorso, sì. No, grazie. È tifosa dell'euro. Non posso avere rapporti con chi difende l'euro. Non ci posso credere. Cioè, se ti dovessi scegliere un fidanzamento tra Lara Comi e Licia Ronzulli, chi sceglieresti? Posto che sei. Sono tutte e due tifose dell'euro. Però tra le due chi sceglieresti? Nessuna. Vabbè, falso. Nessuna. Pubblicità. Torniamo tra un attimo, Torniamo tra un attimo con Matteo Salvini. La Zanzara. Sono un'estimatrice proprio di cane, un po' spostato. Com'è che fa, Parenzo? Com'è che fa? D'accordo! Abbiamo questo referendum meraviglioso della Lega per aprire le case ai signori che vogliono fare del sesso mercenario, d'accordo? D'accordo? Ma ce l'abbiamo qualche pezzo di battaglia dalla settimana, no? E mettetemelo su qualche pezzo, è successo due giorni fa. Battaglia tra Vanna Marchi, Stefania Nobile e David Parenzo, quasi una leggenda ormai. Quasi una leggenda. Che è successo? Fammi chiedere a Salvini una cosa, perché in questa casa molto bella di Parigi dove sono. Pensa te, Salvini, la sinistra chic, fa il weekendino a Parigi, capito? Il weekendino a Parigi, la sinistra chic. Vabbè, lasciamo perdere, va. Allora, no, che vuoi? Voglio capire questo, se lui sa come si è attivisto che della Lega, tutta del nord, produttivo. Ma che atmosfera c'è? C'è già la paura della signora Marine Le Pen lì in Francia? Beh, caro, guarda, per strada c'è un clima brutto proprio. Ma quale clima brutto? Ma che stai a dire? Io ho parlato con molta gente oggi, ma e tutti mi dicevano è colpa di Monsieur Mitterrand, cioè giustamente. Ma che c'entra Mitterrand? Scusa, che c'entra Mitterrand? Sì, danno la colpa a Mitterrand, perché Mitterrand, come tu sai, cambiò il sistema elettorale. Ma che dici? Ma che vuol dire questo? Sì. Mitterrand socialista, cambiò la legge elettorale per colpire la destra di Chirac. perché non voleva vincere. Sì, ma non abbiamo bisogno alle 20:37 delle tue cazzo di lezioni di politica francese. Cioè, non abbiamo bisogno di questo, cioè ti attesso. Viva Marine Le Pen, punto. Allora, a parte l'aria fresca che arriva da Parigi. A parte Marine Le Pen, Salvini, però oggi sul Libero in prima pagina leggo una cosa straordinaria che in parte è vera. I gay, il successo, il segreto del successo di Marine Le Pen. Cioè, pare che sia pieno di froci all'interno del Front National. È vero o no questa cosa, tu che conosci quelle cose francesi? Ma me lo auguro. Oddio. Me lo auguro. Perché? Marine Le Pen prende il voto operaio, prende il voto ambientalista, prende il voto delle periferie, dice lavoro ai francesi, stop all'immigrazione, questo euro è una disgrazia sia per gli etero che per i gay. Non è che l'euro fa male. Devo dire la verità che l'assistente personale di Jean-Marie Le Pen, che ho personalmente conosciuto in un albergo a Strasburgo qualche settimana fa, ma proprio è frocio perso, cioè io non so se tu l'hai mai visto, l'assistente personale del signor Jean-Marie Le Pen, Parenzo, tu l'hai visto? Ma è una roba quasi imbarazzante, cioè è proprio di una un personaggio straordinario, ma è proprio effeminatissimo. Perché devi dire così? Ma perché devo dire? Non mica ho detto che è un criminale, ho detto semplicemente che è molto effeminato e molto probabilmente gay, ma il segretario personale di Jean-Marie Le Pen, sto dicendo Jean-Marie Le Pen, non sto dicendo il segretario di Grillini, cioè il segretario. Questo di Jean... dimostra il fatto che le discriminazioni sono invenzioni giornalistiche. Il voto alla Le Pen, così come il voto alla Lega, sono voti di speranza, di futuro. Cioè tu, se fossi un gay, se fossi un gay diresti potrebbe votare tranquillamente per la Lega, ma non c'avete manco uno che ha fatto coming out? No, ce ne sono un sacco di elettori, ma sai, quando uno fa due conti economici, la battaglia per il lavoro non è che riguarda gli No, d'accordo. Ma voglio dire, non ci sono gay che si dichiarano apertamente leghisti, dai. Ormai da... A voglia, ne conosco a valanghe. Posso chiedere una cosa a valanga? Siamo pieni di gay, pure la Lega è piena di gay. Ne conosco parecchi che votano Lega senza nessun tipo di problema, anche perché io sono contro le adozioni e le coppie gay, i matrimoni gay, ma per i riconoscimenti di tutti gli altri diritti che si possono riconoscere. Parenzo, che vuoi dire? Non ho capito. No, voglio chiedere una cosa a Salvini. Lui sa come funzionano queste piastre della cucina elettroniche? Ma che ne sa quello delle piastre? Le piastre della cucina in Francia? No, cucina super moderna. Questa cucina super moderna, aspetta un attimo che è seria la cosa, in questa cucina super moderna, bellissima veramente, open space straordinario, una solita cosa tua. Però, ma cosa c'entra? C'è questo piano cottura, non dirò la marca di una nota azienda, che non c'è di fuochi normali, è quella elettrica. Vabbè, quella, ma scusa, ma perché dovremmo ma te le cerchi, se vai all'agriturismo La Fiorida in Valtellina, c'è il fuoco, non è che c'è la piastra elettrica che non si capisce come. Ma sono mica nell'età della piastra. Vai a Parigi, te le cerchi. Comunque, guarda che la candidatura di FBAL è anche per dare un po', per mettere qualche donna in più nella Lega, diciamo donna particolare, perché ovviamente lì trattasi anche di un elemento piuttosto bizzarro. Però una donna in più, non avete donne in Parlamento, ne avete solo una in Parlamento. No, in Senato ne abbiamo 4-5, in Regione Lombardia la metà degli assessori sono donne. Comunque, meglio Marine Le Pen di Marina Berlusconi, tra le due Marine che preferisci? Marina Berlusconi, per carità. Beh, Marine Le Pen la conosco, la stimo, ha due palle così. Ha due palle così? Di futuro, assolutamente, tutta la vita Marine Le Pen. D'acciaio, palle d'acciaio. Assolutamente. Bah, vedremo perché anche lì è una donna dolce ma determinata. Ma Borghezio lo candidiamo o no alle elezioni europee? Diamo la notizia definitiva. La riunione settimana prossima. Io dacci sta soddisfazione che sennò siamo rovinati. Sento i leghisti che verranno insieme ai non leghisti domani, vieni a firmare.org. Guarda che se non mi candidi Borghezio, io faccio un inferno da questi microfoni, faccio un scateno l'ira di Dio se non mi candidi Borghezio. In alternativa Boso. No, Boso ormai non si può più candidare, dai. No, vabbè. In alternativa. Ciao Matteo. So che Parenzo voterà Lega nel segreto dell'urna e quindi farò. No, non credo. Ciao, presto, ciao. Non me moleste molto. Allora, dove andiamo? Tra poco ti presento un personaggio incredibile, caro Parenzo, incredibile. Questi politici però non sono neanche utili nelle cose pratiche della vita di tutti i giorni. Cioè, non sanno come funzionano le piastre in Francia. Ma a me che cosa cazzo me ne frega? Non ho mai chiesto niente alla politica. Volevi un consiglio, ho capito. E questo ti risponde, della Lega dice, vabbè, accendiamo il fuoco in Val Brembana. Vabbè, ma mica sono un troglodita che accendo il fuoco con la pietra in Val Brembana, dai. Che abbiamo? Luciano da Parma. Sì. Vai, dimmi. Pronto, pronto, ciao Crucelli. Dai, dai, dimmi. Io volevo parlare con il razzista Crucelli. Razzista, dai. Scusa, siccome esiste il vaticanista che si occupa del Vaticano, il quirinalista che si occupa del Quirinale, tu occupandoti solo di razzi sei un razzista. Ma io non mi occupo solo di razzi, ogni tanto lo invidiamo, punto. Beh, però, perdona, ma almeno la battuta, visto che sto anche per comprare la maglietta, fatti, eccetera, E allora? Ti è piaciuta, che tu sei un razzista, dai, su. Ma perché razzista? Non ho capito. Perché ti occupi di razzi. Ma questa sarebbe la battuta? Ma non ho, per non averla capita, sono razzista, cioè sono un cultore di razzi, diciamo, sono un amante di razzi. Battutone, Parenzo, ti è piaciuto sto battutone? Voto? Guarda, non mi è partita la risata, scusa, adesso magari la compro con un mi vende per cortesia una risata un attimo. Gianpietro da Bologna, Gianpietro Savino Giuseppe. Ciao tesoro, dimmi che Giuseppe, c'è. Ti voglio bene, Giuseppe. Io non sono in. Ti sta prendendo per il culo, Parenzo. Parenzo ti sta prendendo per il culo. Ti voglio bene, Giuseppe. Parenzo. Senti, io non sono un personaggio incredibile. Sono i politici che sono incredibili. Perché? Che è successo? Sento un'interferenza, Giuseppe. Che è successo? Non lo so. Interferenze. Vabbè, dai, parla, Savino, sono personaggi incredibili, perché? Che io voglio dire, digli a Parenzo, sì, che tutto quello che ci siamo detti nelle trasmissioni che abbiamo fatto, sì, si sta rivelando. Perché? Cosa? Ho detto che De Benedetti era come Bin Laden. Hai visto Panorama cosa ha scritto? No, veramente Panorama non può avere scritto che De Benedetti è come Bin Laden, scusa, abbi pazienza. No, l'ho detto io, però i reati che hanno scritto su Panorama... Ma non è che quello che scrive Panorama è la verità assoluta, scolpita? Hanno riportato delle accuse per le sue aziende, per la storia dell'inquinamento? Tutto quello che dico io è Vangelo, e sai perché? Abbiamo parlato dello IOR. Dello IOR, che è successo? Che ha fatto Papa Francesco? Che ha fatto? Ha cambiato tutti i vertici. Ha cambiato i vertici, vabbè, allora? Voglio dire, se questi politici non si mettono in testa, che qui, vedi cosa sta succedendo, Giuseppe? Sì, che sta succedendo? Che un po' partivano i poveri dall'Italia con le valigie di cartone. E invece? Adesso stanno partendo i ricchi con le valigie di Vuitton. Dici? Ha capito? Perché se questi non capiscono, questi politici di merda, che la ricchezza si può nascondere, la povertà non si può nascondere. Uno che è ricco dice che sono povero, uno che è povero non può dire che sono ricco. Parenzo, tu hai capito che vuol dire Savino? È impazzito Savino, no? Guarda, intanto Savino è un simpatico amico, ma più tuo che mio, diciamo, visto che ti chiama sempre in causa e ti dice: io Giuseppe voglio ma con te, Giuseppe ti voglio bene, Giuseppe. Poi hai esordito dicendo che De Benedetti è come Bin Laden, che già questo mi pare una cosa, voglio dire, no? Qualifica da solo il nostro amico Savino, che già ne aveva sparate altre, ma questa volta mi pare di vedere. Poi non ho capito il senso del suo discorso, una parola non ho capito. Oh, ti presento un personaggio, caro Parenzo. Innanzitutto ha fondato un club Forza Silvio a Roma Nord. Si chiama Vincenzo Leli. Bonsoir. Buonasera a tutti. Allora, Forza Italia, quindicesimo municipio. Parenzo, ti dico solo questo. Propone, per attirare iscritti ai club Forza Silvio, che secondo me tanti iscritti fino adesso, caro Leli, non è che proprio sta andando benissimo, ma lasciamo perdere. Lo sai che propone, Parenzo? Propone di praticamente di offre gratis visite per cani e gatti a quelli che si iscrivono, cioè praticamente il veterinario gratis, cioè, e poi qualcosa in più, Leli, che offrite poi in più? No, veramente nulla, a parte il discorso della prima visita visita che volentieri il veterinario fa, poi basta. Scusi, ma come è venuto in mente? Cioè, la gente entra là. D'accordo? Sì. La gente entra là e poi. D'accordo? E poi? D'accordo? d'accordo? Io offriamo una visita dal veterinario, d'accordo? E poi niente, no, ma a parte il discorso del veterinario, non è l'unico servizio che il nostro club offre. E che offre poi? Ma quelli seri anche... servizi non è che li offrono i club che fanno politica di solito, i servizi li offrono... Noi offriamo una bandiera di Forza Italia. Beh, no, lo offriamo anche i gatti, insomma. Portiamo i cani a fare la pipì, d'accordo? Allora, oltre al veterinario gratis, che offrite a Roma Nord? I servizi CAF per i nostri iscritti, ma cioè, anche per la dichiarazione amici, redditi poi? Ma no, voglio dire una cosa, capitano molte persone che per esempio non sono della nostra parte politica, non sono di centrodestra, che vengono comunque e dicono: Vincenzo, posso fare il 7:30, però non farò l'iscrizione al club, insomma, certo, ma questo è lo stesso identico discorso anche per discorso. Cioè, allora, volete animali. Fare veterinari, gente per fare la dichiarazione redditi, fiscalisti e poi qualcos'altro? Attenzione che adesso la sparo grossa, voi. Dimmi. La settimana prossima faremo una convenzione anche con dei studi dentistici per aiutare le persone a fare delle visite presso... Cioè la famosa cosa di Berlusconi, più dentieri per tutti? Ma no, ma noi fondamentalmente non è che abbiamo ascoltato quello che ha detto Berlusconi, noi ascoltiamo quello che ci dicono i cittadini. Vabbè, d'accordo, ma se voi offrite cure mediche, cioè, ma chi paga poi dal dentista? Cioè, convenzioni che significa? Sconti? No, attenzione, convenzioni vuol dire, per esempio, dico, mo la butto così perché ancora devo scendere nei dettagli. Ma perché non scegliete pure gli oculisti? Allora, perché non scegliete pure gli oculisti? Non mi piace questa degli oculisti. Allora, il discorso è questo, nel senso che una scontistica, che cosa vuol dire? La butto lì, una pulizia dei denti costa 80 euro per il nostro iscritto, comunque per il nostro amico che va lì tramite noi, la scontistica del 20%. E chi paga e chi paga? Nessuno lo paga, è il dentista che si mette in tasca meno soldi, come si dice a Roma. Vabbè, ma ho capito, ma Leli, scusa, Parenzo, ma tu stai sentendo questa cosa? Praticamente i club Forza Silvio diventano uno scontificio, cioè mettete di fronte... Ma no, il club, perché il mio club Forza Silvio, quindi il tuo club, certo. Viene incontro ai cittadini, non ai club Forza Silvio, questa è un'idea. Viene incontro ai cittadini... Con molta serenità. Dentiere, pulizia dei denti... E l'oculista anche. Pure l'oculista. L'oculista. Cioè no, offrite sconti con l'oculista. Parenzo, ma qui ma la politica che è diventata? No, David? Voglio capire, ma scusi, ma perché non invitate anche per un consulto il mago del nascimento? Magari lo mettete lì dentro, fuori, mettete la signora Mari, tanta voglia. La mettete lì e dite: oggi super sconto, dentiere per tutti, ma non solo! Vi diamo anche la tessera di Forza Italia, d'accordo! Va bene, vi devo lasciare. Ciao Leli. Savino, abbi pazienza, dove sei? Hai attaccato Marco da Roma, dai, per concludere. Buonasera, Marco. Buonasera. Vai. Senta, io volevo tornare sull'argomento prostituzione legale, ma lo scopo di legalizzarla qual è? Fare i bordelli, hai capito? Okay. No, bordelli, come in Austria, come in Svizzera, come in Germania. Ma possibile mai che un imprenditore austriaco deve fare i quattrini con migliaia di italiani che vanno a puttane a Klagenfurt, al confine, eccetera, e i soldi li devono fare loro, non li possiamo fare noi? Per quale motivo ci sono migliaia di italiani che emigrano verso Svizzera e Austria per cercare sesso, per cercare felicità, e i soldi li fanno gli altri? Perché non li possiamo fare noi i soldi? Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao. A presto. Un bacio dove vuoi. Ciao. Ciao. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Crociale vaffanculo, non sono sui crociali. D'accordo! Radio 24. La passione si sente.